è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. Che punturina vogliamo fare oggi, caro Parenzo, in apertura, eh? Che punturina vogliamo fare? Prova microfono. Ma quale prova microfono se sei qui in studio? Quale microfono? Se sei qui in studio fai la prova in microfono. Prova microfono, amico mio. Perché vuoi fare la prova microfono, scusa? Notizia numero uno, Alcoa, malore per un operaio. Il medico scenda, lui si rifiuta. E la puntata di oggi è dedicata a questo operaio dell'Alcoa che ha avuto un malore. Vabbè. Siamo con voi, amici dell'Alcoa. Ma io non sono continuate con nessuno. A lottare. Ma sei tu con loro, non la Zanzara. Ma e chi per se il ne diritto frega? Al lavoro, per la dignità del diritto al lavoro. Ma io me ne fotto totalmente di queste cose. Vai a Radio Popolare, vai a Rai 3, vai a non so dove, vai da Formigli, da Santoro a dire queste cose. Palermo. Fai il pubblico da Santoro, da Formigli. Perché il pubblico? Fai il pubblico, fai il pubblico, la dignità, eccetera. Lavoro, eccetera. Lavoro. Sentiamo Vendola, punturina, abituale, abituale. Santificazione di Renzi da parte di lobby politico-editoriali. Credo che ci sia una campagna di santificazione su grandi giornali da parte di alcune grandi lobby politico-editoriali a favore di Renzi. Questa è la verità. Se qualcuno, diciamo, fa qualche obiezione, allora si parla di campagna di demonizzazione. Insomma, il bello della contesa è che deve essere una contesa vera. Beh, c'è anche il signor Scajola, Claudio Scajola, il quale tornato. È andato in Turchia, sì. E dice che... A cercare casa, no? No. Che c'entra? So sempre la casa, sempre la casa. Dici sempre, siccome non sai nulla, non sai un cazzo, dici sempre le stesse cose. Nervoso. Non oggi. Ti sei preparato, a Milano, come al solito. È nervoso. Allora, Scajola è andato in Turchia, sì. E dice che la politica deve imparare da San Paolo. Da chi? Sì, vabbè, ho detto con tutto il rispetto, però... Qual è ad esempio il messaggio di San Paolo più utile alla politica italiana? È saputo indicare la necessità di un ripensamento, di guardarsi dentro e di dare coraggio agli altri per andare avanti. Vabbè, domanda fondamentale del TG1 dopo il viaggio. Ah, era il TG1 questo? Domanda del TG1 a Scajola. Scusi, ma qual è l'indicazione che San Paolo può dare alla politica? Sì. Perché uno deve chiedere una cosa del genere? Perché? Voglio il nome! Il nome del collega! Voglio il nome! Il nome! Poi non utilizzare questa parola colleghi, colleghi, beh, no, non la odio, come colleghi, sei sindacalese, parola di sindacalese puro. E come lo chiami? Odio, ma che ne so, uno, non mi interessa, giornalista, non giornalista, ancora con queste differenze. Queste differenze, giornalista, ma non TG1, me ne frega, scusa. Niente, a me, per me posso. Che direttore fare... sempre sul Maccari, no? Per me sì, certo, ecco. Maccari, signor Maccari, lo conosci bene. Come il signor Maccari? Il signor Bossi telefonava al signor Maccari, se non ricordo male. Sì, Bossi, no? Sì, Bossi in persona. È un bel telefonato, ha telefonato. E tutto passerà. No, no, no. Signor Grillo mima una telefonata a Monti. Devo dire che quando fa questi pezzi, sì, di comicità pura, è un comico. E lui quello deve fare, non politica. Bravo. Sentiamo. Chi è questo? Monti. Monti. No, non ti posso parlare. Monti, non ti posso parlare. Ti ho già scritto delle cose. Ti ho scritto quello che devi fare, Monti. Non hai seguito esattamente quello che ti ho detto di fare e adesso ti trovi in difficoltà e mi chiedi aiuto. Io non ti do più aiuti in nessun caso, va bene? Ciao, Monti. Allora, fammi la cortesia. Dai immediatamente le dimissioni. Fai sciogliere le camere da Napolitano. Vattene alle Barbados e non rompere più i coglioni, va bene? Ciao. E non mi chiamare più a questo numero. Ciao. Poi prosegue la telefonata e credo si chiude in questo modo. C'è un altro pezzo di telefonata finta a Monti. Vabbè, io studio tutti i giorni, studio. Se tu guardi i libri miei, se sono tutti sottolineati, come quando andavo a scuola, lo vedi? Sono sottolineati, va bene? Dov'è? Monti, ho detto, no, non voglio neanche parlare con Grilli, va? Non voglio parlare con Grilli, non voglio parlare con Monti, non voglio avere rapporti con voi. Vai alle Barbados con il nano, lo psiconano Berlusconi. Ciao. Ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. È mio e perciò. No, no, non ci sto. Ma il culetto mio. Notizie importanti di oggi è che la Repubblica delle Idee, questo festival organizzato da Repubblica, discute sul tradimento di Giuda combattente, il dibattito sulla figura dell'apostolo. Ne parlano alla Zanzara Gustavo Zagrebelsky ed Eugenio Scalfari. Ma questo ne parlerai te, no, io ne parlerai te a Radio voglio Popolare. Voglio qui Scalfari a parlare del tradimento di Giuda combattente, bellissimo. Aspetta un attimo, una delle cose migliori di oggi è Iva Zanicchi, le donne del PDL tutte innamorate di Renzi. Questo l'avevo letto. Effettivamente, devo dirvi, cari ascoltatori della Zanzara, che è un po' così. Sì. Perché me lo confessano diverse esponenti. Perché tu hai rapporti. PDLine, no. Sì, ho rapporti con rapporti. Tutti. Ho rapporti con tutti. Per esempio, ce lo disse apertamente in questo caso Daniela Santanchè qualche giorno fa. Già, è vero. Quando venne qui a dirci. Voleva che... baciarlo. Sì, no, voleva baciarlo. Naturalmente in caso di vittoria, E Sallusti che dice? Che ne so. Sentiamo. Ma io sono contenta che vinca. Ma guarda, a me Renzi non lo trovo neanche un mostro di capacità, onestamente. Mi sembra anche molto, insomma, molto fumo, non tanto arrosto. Però se Renzi è capace con la sua campagna per queste primarie di questa gente che da 30 anni che sta in Parlamento, che è triste, che è noiosa, che non ha mai lavorato e che pensa ancora a una politica vecchia e che vince Renzi, guardi, vado, gli stringo la mano, lo bacio e dico with my compliments. E poi ritorna in gioco il mitico sottosegretario Polillo, il grande Polillo, quello finalmente. Del curriculum dato a Cicchitto a Monti, certo, per diventare sottosegretario. Certo. La ripresa è dentro di noi? Sentiamo che cosa dice. La ripresa è dentro di noi? Oddio, io dentro di me non lo so, ma insomma credo che c'è un cambiamento prospettico di cui possiamo discutere. Un cambiamento prospettico possiamo discutere! Cosa vuol dire cambiamento prospettico? Perché fanno queste interviste? Perché? Secondo me non lo sapeva che lo aveva detto il suo premier. Mettetemi la Pantera Rosa un attimo, abbiamo già un ospite. Che Pantera succede? Rosa, Pantera Rosa, Pantera Rosa, perché c'è una notizia del giorno, una notizia forte, molto forte, lanciata qui dall'avvocato Carlo Taormina. Ah, certo, dossier, cose, certo, carte. Sostiene l'avvocato Carlo Taormina, ex deputato di sostiene Forza Pereira, Italia. Sostiene Pereira, sembra, scusa. Sostiene l'avvocato Carlo Taormina, ex deputato di Forza Italia, presidente della commissione d'inchiesta su varie commissioni d'inchiesta. Sì, molte, anche quella sulla questione di Mitrokhin, no? Tutte commissioni che... No, Mitrokhin non credo. Comunque, dice, sostiene che ha in mano delle carte per risolvere il giallo di Ilaria Alpi. Io ho un documento riservato e che non ho mai esibito, da cui risultano certe cose, ma non le voglio dire perché non voglio sangrare la memoria di nessuno e non voglio dare fastidio ad una famiglia che, nonostante abbia per anni rotto le scatole con la creazione di questa icona, però è una famiglia che va rispettata. Beh, il bello è che dice una famiglia che va rispettata, ha però rotto le scatole. Ha rotto le scatole per anni nella creazione dell'icona. Professore, guardi che ci andiamo di mezzo anche noi, non ci metta in mezzo in queste cose, perché succede un casino. No, ma noi che c'entriamo? Noi siamo solo dei reggi microfono, no? Come no, ma che reggi microfono? Lei è un reggi microfono, il principe, poi i suoi amici di destra si comportano in certa modo. Giallo Taormina. Ma perché giallo? Ha detto una cosa, non c'è giallo. C'è un grande personaggio, il più grande di questo mese, Zagrebelsky. Insieme a Sgarbi e quello che ha detto, c'è un altro personaggio. E con noi intanto, uno degli ultimi comunisti, credo, al mondo, credo, secondo me al mondo. Quanto le piacciono a lei invitare i comunisti alla Zanzara? Quanto le piace? Non troppo, sì, in realtà. Sì. Uno degli ultimi, credo, nel mondo. Cioè, non ce ne sono. Se uno va a contare, non è che ce ne sono molto. Cioè, forse siamo sulla, si possono contare sulle dita di una mano. Secondo me. Insomma, tu dici, c'è uno che dice sono comunista. Quanti saranno? Signor Ferrero dice che è comunista. Sì, io, infatti, Ferrero è uno di quelli. No, più di 100. No, migliaia. No. Sì, sì, sì, se ne faccio una ragione. Ci sono migliaia di comunisti in giro. No, non ci credo. Se ne faccia una ragione. Non ci credo, no, non ci voglio credere, Comunisti. Marco Rizzo, buonasera. Buonasera a voi, simpaticissimi. Come sta? Come sta? Da Varic, compagno. Bene, bene. Leader, leader dei comunisti sinistra popolare, così si dice. Senta, quanti sono per i comunisti? Tornare a essere un po' popolare, perché questa sinistra è fatta un po' troppo da fighetti. Lei dice, eh? Beh, questo ormai lei lo dice da tempo, insomma. Da un po' di tempo. Il più, fighetto di tutti chi è? Cioè il fighetto. Vendola il fighetto, il prototipo del fighetto, eh. Ma anche nel modo di vestire, dice, o solo nell'atteggiamento? No, che c'entra il modo di vestire? Nelle idee, poeta del nulla. Poeta del nulla. Eclettismo di parole. Però no, lui i voti li prende, Renzo. Al contrario, ma i voti... Lui. I voti dico lui, Vendola. Lui, Vendola, i voti li prende. Lui, vanno Vendola. Vanno e vengono i voti. Quello che resta sono le persone, sono i rapporti di forza nella società. Cioè se vince Vendola cambia la società? No, ma se adesso, vince Renzi. Ma meno male Renzi, che non cambia la società, cioè, altrimenti saremmo finiti se cambia se la società. Se vince Dio cambia la società. Però, e che succede? Sicuro. E che succede se vince lei? Cruciani, gli riduciamo la trasmissione a 2 ore. Beh, 2 ore e mezzo, 2 ore. Guardi che mi fa quasi un favore alla fine. Faremmo una censura drastica di mezz'ora. No, ecco, se mi riducete lo stipendio, se mettete un tetto agli stipendi anche privati, la cosa mi disturberebbe un po'. Ecco, insomma. Caro Rizzo, questo non si può fare, però si arrenda, insomma, non si potrà fare quello che vuole lei, insomma, è un mondo... Non si può fare con questi rapporti di forza, certamente, però insomma questo mondo così non può andare avanti, dall'ambiente alla guerra, anche all'aumento della benzina, per intendersi. Vabbè, adesso con questi i comunisti non c'entrano niente, lei darebbe la benzina gratis, fosse per lei, cioè, nel mondo ideale comunista, insomma, no? Beh, no, ci sarebbe una ripartizione delle risorse e certamente non pagheremmo un litro... Di benzina 2 euro al litro. Senta, cose, Rizzo, anche perché ne paghiamo metà di tasse per tasse che non vengono utilizzate se non per dare i soldi alle banche. E dall'altra parte perché insomma i petrolieri quando aumenta la benzina aumenta il petrolio, aumenta la benzina, poi quando la benzina diminuisce il... Ma questo lo dicono tutti, non è che ci vogliono i comunisti per dirlo. Lo dice anche il PD questo. Scusi un attimo, Rizzo. Ma non lo fanno, lei ha mai visto un governo che mette in mora i petrolieri? Scusi un attimo. Io lo farei. Scusi Rizzo, vorrei capire una cosa, ma i comunisti secondo lei in Italia quanti sono? Un numero, i comunisti veri, quanti sono? 1 milione. I militanti comunisti sono qualche migliaio, credo. Una minoranza di una minoranza, lo 0,0. Un'infima minoranza. Poi quelli che votano, che sarebbero disponibili a votare, forse sono di più, ci mancherebbe. Però insomma siamo nel... Ma ripeto, il voto è una cosa che va e che viene. Beh, ho capito, però è importante, va e viene, però se uno ce n'ha sempre pochi, ce n'ha sempre pochi. Io preferisco cambiare prima un po' le persone, cioè non so come dire. Le teste. Con qualche voto in più, tipo se hanno dei deputati in più, ma conta di più nella società oggi, nei rapporti di forza. Sì. Che ne so, stare alla testa del movimento, parlo di una cosa lontana da me, al movimento dei tassisti. Se io ho in mano il movimento dei tassisti posso. Ma i comunisti insomma cose, stati se non me le danno blocco Roma. Ma quelli sono di destra. Se ho in mano 20 deputati posso chiedergli di farmi invitare a cena. Scusi Rizzo, ma lei definisce fighetto Vendola, ma anche perché adesso ha annunciato che si vuole sposare? Come la giudica questa cosa? No, è proprio la cultura. Ma come la giudica questa cosa che si vuole sposare? Una cultura dove le cose si sbiadiscono, dove devi, che ne so, andare in chiesa, penso all'altro candidato della Sicilia, Crocetta, devi andare in chiesa e però devi fare l'uomo di sinistra. Ma quello era comunista? Non comunista, non come si può dire? Ma era comunista, era comunista pure Crocetta. Viene blandito. Perché un comunista non può... viene anche un po' preso. Perché non può andare in chiesa un comunista, non capisco. No, però io ad esempio credo che l'ideologia comunista sappia cosa sono le religioni e le religioni sono un oppio per i popoli. Ah, lei è ancora all'oppio per i popoli. Ma lei ha mai bestemmiato, signor Rizzo, ad esempio? Lei, ad esempio, perché lei che è molto... può essere d'accordo o no. Certo. Però quello è... Scusi, Rizzo, ma lei che volevi chiedere? Le è mai capitato di tirare uno di quei bestemmioni che ogni tanto nelle sezioni... Lei da laico, così... capitano. Da anticlericale. Beh, ci sono degli intercalari che a volte scappano. Non c'è dubbio. Lei lo fa, lei, qualche volta capita. A lei capita, diciamo la verità. Anche se è una contraddizione, perché se uno si... come si può, io vorrei credere, perché credo che chi ha una visione del mondo anche ultraterrena vive meglio. Però mi dica la verità. Io quando si muore poi c'è qualcosa. Alle volte bestemmiare. Io lo confesso apertamente. Mi capita di bestemmiare. Alle volte di bestemmiare. Sì, è capitato nella mia vita. Wake up, polpetta. Shining, don't you see? Get up, polpetta. Beh, ma il personaggio più incredibile di questi ultimi giorni, ci abbiamo messo un po' a raccogliere delle cose, eccetera, eccetera, è il presidente della provincia di Napoli, il signor Luigi Cesaro. Luigi Cesaro, il quale organizza. Sento già che è tutto esaltato. Organizza insieme alle Nazioni Unite. Come pensi? Detto Gigino Apurpetta. Non ho capito. Cosa c'entra la provincia di Napoli con le Nazioni Unite? Ma no, organizzano una roba, non mi interessa. Il World, non so che cosa. Urban Forum, cose inutili, naturalmente. Sì, tutte cose totalmente inutili, totalmente inutili. Organizzate a Napoli. E c'è il presidente della provincia di Napoli, il signor Cesaro. Signor Cesaro, detto Gigino Apurpetta. Ma qui adesso Gigino Apurpetta. Apurpetta in napoletano adesso non so pronunciarlo bene. Senti come pronuncia, io dico solo una cosa. Ma che figura facciamo? Che figura facciamo con l'ONU davanti alle telecamere dell'ONU? Come? C'era davanti, c'era nelle immagini con scritto United Nations Broadcast, non so che cosa. Davanti all'ONU, senti come pronuncia World Urban Forum. Non lo so pronunciare nemmeno io, però almeno non faccio queste figure di palta. Sentiamo. Chi più di noi aveva quindi le caratteristiche idonee per ospitare la sesta edizione del Urban Forum. Ma non basta, nel nostro paese è in atto una trasformazione legislativa che a breve vedrà nascere 10 città metropolitane. Beh, poi risentiamo, vi prego. Io voglio usarlo come suoneria del telefono. In questo momento sono molto depresso. World Urban Forum. Sono molto depresso. Vi prego, usare risentiamo. Questo, una suoneria. Chi più di noi aveva quindi le caratteristiche idonee per ospitare la sesta edizione del Urban Forum. Ma non basta, nel nostro paese è in atto una trasformazione World Urban Forum by Cesaro. Lo voglio come suoneria del telefono. Senti, in un'intervista favolosa al TG3, lo stesso Cesaro che guarda un gobbo, legge. Presidente della provincia di Napoli. Napoli, nonché parlamentare, c'ha doppio incarico. Sì, ancora... l'abbiamo già attanato tempo fa. No, lui signore, no. Forse. Senti che cosa come il WUF dice a un certo punto, il WUF, che è l'acronimo di World Urban Forum, il WUF. Non è il WWF, il PUF, il dire a quel punto. Sentiamo. Il PUF è l'area urbana con maggiore densità abitativa, pur esistendo su un territorio ristretto, dunque per le sue caratteristiche assolutamente idoneo ad ospitare il WUF per discutere di sviluppo urbanistico. Il WUF! Però non è nuovo a queste cose il signor Cesaro, sentilo sulla Fiat, senti come lo dice sia Fiat che Marchionne, senti come pronuncia. Credo che comunque non si tratta di un ricatto, si tratta certamente dell'azienda Fiat insieme a Melchior hanno deciso di mettere in campo una nuova strategia. A Fiat. Insieme a Melchior. Marchionne! Cosa hai detto Marchionne? Melchior. Sì, poi aiuto, ma io dico, ma uno così, ma perché si mette ad organizzare una cosa con le Nazioni Unite? Mi viene il sangue alla testa! Le Nazioni Unite sono una cosa seria! Ma comunque uno si immagina Nazioni Unite, il palazzo di vetro, una roba importante, no? E arriva Cesaro. Chiamiamolo, vi prego, chiamiamolo! Me lo chiamate? Berlusconi e Tic Tac intanto, sempre Polpetta. È da qualche ora che Berlusconi ha dato il Tic Tac a noi, a tutta la regione Campania, ma non solo, ma a livello nazionale. Ma il tic tac sarebbe il diktat, non l'ho capito. Ha dato il tic tac. Ah, pensavo fossero le caramelle. Ma no, ci ha dato il tic tac. Cesaro, provincia di Napoli. Presidente. Ci pensiamo noi adesso. Possiamo chiamare dalle Nazioni Unite direttamente. Starà esercitandosi in inglese, forse. Mi batte il cuore quando qualcuno deve... Squilla, ma adesso lo taniamo questo. Vabbè, dopo c'è tempo. Fino alle 21, fino alle 21, c'è voglio tempo. Battaglia, voglio però battaglia. Però qualcuno adesso lo avverte in realtà, qualcuno lo avverte. Comunque è il numero uno, Un amico mi segnala, voglio Cesaro Premier, effettivamente sarebbe uno spasso. Cesaro, amico mio, perché ti metti a organizzare il World Urban Forum? Perché non c'è bisogno di presentarsi lì davanti alle telecamere dell'ONU, manda qualcuno. Ma poi sono tanti c'era problemi a Napoli. Accanto a lui, in questa presentazione, c'era tra l'altro il presidente della regione Campania Caldoro, sì, che è una persona distinta, cioè impietrito. Totalmente impietrito, fermo, quasi schifato, ma fermo, immobile, sì. Non diceva nulla perché non si poteva dire nulla. Potremmo fare le lezioni di inglese alla Zanzara del signor Cesaro, potremmo fare proprio un corso di inglese del signor Cesaro, cioè lui che lo insegna. Senta, capito? Rizzo, scusi un attimo, lei che è dei comunisti sinistra popolare, come vede Renzi? Ma credo faccia parte un divertente personaggio dello stesso circo. Senso che è un divertente di questi personaggi che darà noia a questo sistema. Cioè, questo sistema. Ma lei che sistema vuole? Non ho capito. Che sistema vuole? Io voglio un cambio radicale. Però. Cioè, lei vuole il comunismo in Italia? Beh, ci sarà una transizione, chiaro che. Ma come una transizione? Sai, no, Rizzo, su una transizione. Ma la Mi faccia capire che succede. Andatelo a chiedere a quelli che non arrivano alla fine del mese, cominceranno a. C'è un paese modello per lei? Un paese modello per lei? Chi è? Qual è un paese modello? I paesi modello devono essere contestualizzati. Contestualizzati. Facciamo un esempio. Però scusi un attimo. Se la Russia del 1917 era un paese barbarico, allora non c'era nulla. Mica è come quello di adesso. Nel giro di 30 anni col comunismo è diventata la seconda potenza del mondo, vuol dire che quel modello evidentemente... No, non col comunismo. Cioè lei vuole l'Unione Sovietica in Italia, in sostanza. Vabbè. Senta, poi... Non sarebbe male, non l'Unione Sovietica. Ma come non sarebbe male? L'Italia Sovietica, che sarebbe una cosa ben diversa. Come l'Italia sovietica. Senta, certo. Rizzo, ma perché lei si presenta alle elezioni? Si presenterà adesso una lunga campagna elettorale? Si presenterà adesso una... vedremo, chi mette in lista? Chi vorrebbe in lista lei? Chi vorrebbe in lista tra i comunisti sinistra popolare? Intanto quelli che vengono in lista con noi, ammesso che facciamo questa presentazione, dovranno seguire il nostro regolamento, il nostro statuto che prevede che tutti i deputati eletti abbiano lo stipendio di un lavoratore. World Urban Forum. E siamo al top. Siamo al top con Luigi Cesaro, presidente della provincia di Napoli. Vi prego, chiamiamolo. Vi prego, sì, chiamiamolo. Sì, chiamiamolo. Prova, Sassa, prova microfono, prova. Il World Urban Forum. Ma che cos'era il tic tac di Berlusconi? Il diktat era il tic tac di Berlusconi. Fatemi risentire. Presidente della provincia di Napoli, comunque. È da poche, qualche ora che Berlusconi ha dato il tic tac a noi, a tutta la regione Campania, ma non solo, ma a livello, a livello nazionale. Sì, il diktat. Siamo qui, siamo sempre qui, con Luigi Cesaro, titoli del TG3, via, titoli. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. La BCE dice sì all'acquisto illimitato di bond, unica condizione gli impegni dei governi, un solo voto contrario, euforia nelle borse, lo spread va giù. Monti al PPE, l'Italia ha fatto sacrifici pesanti, l'euro rischia di diventare elemento di disgregazione, attenzione al sentimento antitedesco. Napolitano, i partiti devono rinnovare la propria missione ed aprirsi ai giovani, servono nuove norme sul finanziamento e contro la corruzione. Studi medici aperti 7 giorni su 7, 24 ore su 24, nel decreto sanità trasparenza per nomine primarie e direttori generali. Si è sentito male un operaio dell'Alcoa da 3 giorni a 70 metri di altezza, ma la protesta continua a Fornero, non possiamo garantire i posti di lavoro. A Charlotte Will Bill Clinton infiamma la convention democratica, stanotte il discorso con cui Obama accetterà la nomination per la Casa Bianca. A Roma non decolla la raccolta differenziata, spesso i rifiuti finiscono di nuovo mischiati senza essere stati riciclati. Il TG3 dietro un camion dell'AMA. Wake up, Volpetta, the sun is shining, don't you see? Get up, Volpetta, there are so many friends to meet. Urban Forum. Cesaro, rispondi. Please take the phone. So wake up, Polpetta. And now it's time to brush your teeth. Wake up, get up, Polpetta. Svegliati, no? Rispondi. Ma sa come si risponde al telefono? Non vogliamo mettere la follia di Sgarbi ieri sera contro di noi? Sì, molto, molto tosto. Molto ho ricevuto forte, molti messaggi su questo. Molto forte, molto forte. Che taglio! Come dicono la serie di la Roma. Oh, che taglio! Molto forte, tappatevi le orecchie per che stomaci taglio, forti. Che taglio! Stomaci forti, eh. Come si fa a candidare una persona che è rinviata a giudizio in Sicilia, peraltro? Dai, Vittorio, su! Basta! Io non so di cosa stai parlando, povero deficiente. Se non ti rinviato a giudizio solo perché non esisti. Che vuol dire rinviato a giudizio? È stato detto giusto anche Tortora, imbecilli, difendete Tortora, assumete un po' di dignità. Noi questi magistrati hanno sempre ragione. Smettetela di fare le capre quali siete. Con la giustizia, già per che cosa? Se neanche per che cosa? Tu sei arrivato giudizio nel buco del culo. Che taglio! Ma dai, ma hai detto che quello si droga, quell'altro lo prende. Ma l'ha detto lui, quello se uno ma sì, in gioventù, dipende... l'ha detto da noi qui, ha detto non è che fa campagna elettorale su questo, l'ha detto noi come ricordo di gioventù, non è che fa la campagna elettorale sulla droga. Se uno può ricordare anche delle cose più sensate della sua gioventù. Ma come se non ti fossi mai drogato tu, come se non io avessi... mai drogato, tu ti sei drogato, animale. Io mai, ma io mai. Ma io mai, nemmeno io, nemmeno ma nemmeno io. Tu e tua madre troia. Ma no, fermi tu. No, ma che c'entra adesso? Che c'entra, Vittorio? Animale, animale, sei va, un... va, va. Non capisco perché. Vabbè, sei l'ho messo perché così. Sta praticamente facendo il giro del web, dunque si può anche mettere. Sì, certo. Renzi dagli Stati Uniti, ho una funzione sociale, far andare d'accordo i dirigenti del Partito Democratico. Beh, questo mi pare un po' io sono dalla parte di Renzi. Ma questo mi pare un desiderata così lontano, diciamo, lontano. Io svolgo una funzione sociale, che è quella di consentire a tutti i dirigenti del mio partito di avere qualcosa su cui vanno d'accordo, cioè l'attacco nei miei confronti. Ancora Renzi, i nonni servono, ma in Parlamento c'è gente da 20 anni. Tanti anziani fanno benissimo il loro lavoro. Io sono grato e davvero dal profondo del cuore, nella mia città, al lavoro che fanno gli anziani. Se non ci fossero i nonni non ci sarebbero le famiglie. Ma questo non significa negare le evidenze. Cioè va bene, che in Parlamento intanto... c'è gente che da 20 anni non ha fatto quello per il quale aveva promesso. Siamo qui, Rizzo, perché le Pussy Riot sono, che cosa ha detto lei Rizzo, sono pagate dagli americani, su Rizzo. Non è possibile. Beh, lei conosce bene la comunicazione, quindi quando si ha poco tempo si lancia il concetto. Beh, ho capito, pagate dagli americani, se io addirittura. E Parenzo andiamo con le minigonne sull'altare di San Pietro e urliamo improperi contro il Papa, ci arresteranno, ci daranno 3-4 anni di galera. Cioè, giusto arrestarle, secondo lei? Giusto arrestarle? Io sto dicendo che c'è un codice penale, ma questo non conta rispetto al fatto che ci sia l'attacco alla Russia, a Putin, che a me può anche non piacere, ma dato che la Russia è un paese indipendente da quella che è, diciamo, il pensiero unico dell'Occidente, cioè l'attacco attraverso le Pussy Riot, lo fanno per quello, ma attraverso le Pussy Riot, Rizzo. Ma perché nello stesso momento hanno arrestato delle donne palestinesi e andato 10 anni di galera, ma nessuno ha parlato. Ma perché lei sta sempre dalla parte, sta sempre contro quelli che lottano per la libertà? No, questo le Pussy Riot. Le Pussy Riot lottano per la libertà. Beh, sì, anche. Lottino per diventare notte e siano su probabilmente questo, state su... anche ma fanno perché... anche una battaglia di libertà. Perché devono essere e arrestate? Una battaglia di libertà, quella di entrare, che ne so, in sinagoga con una testa di maiale e tirarla in testa. Ma no, non hanno fatto nulla di tutto questo. Ah, no, come non hanno fatto? Nulla di tutto questo. Sono andati nell'equivalente di San Pietro, nella chiesa ortodossa centrale di Mosca, e hanno fatto un filmato saltando e urlando improperi dentro la chiesa di Mosca. Perché lei se appoggia... lo facessero al Vaticano, cosa sarebbe successo? E perché lei appoggia Assad? No, anche Assad. Qua è una cosa più seria. Cioè c'è un imperialismo europeo scelgono dei paesi indipendenti e li attaccano. La Libia è stata attaccata per fregare il petrolio all'Italia da parte della Francia. Questo ma è un dittatore Assad. Ma insomma, il petrolio è e meglio che stia. L'Arabia Saudita non sono dittatori. Ma, certo. Ma sono amici degli... no, ma sono amici degli americani, però. È molto semplice. E meno male. Ma meno male, io voglio che il petrolio sia nelle mani di paesi democratici o di paesi amici. Dato che sta andando in questi termini, noi paghiamo anche il petrolio 2 euro al litro, proprio per questo modo, per questa modalità. Cioè, c'è stata vabbè, la guerra capito, adesso, lasciamo che perdere. Non c'è più, sì, ma lasciamo... e l'Italia paga il petrolio più caro. Ma perché vogliamo fare gli scenari geopolitici? Non mi interessa, perché lei è dalla parte di Assad? Mi spieghi perché è dalla parte di Assad? Dalla parte come no? Se devo scegliere... No, io ho fatto questa polemica, pensando a Ferrero che faceva il finto comunista... con le Pussy Riot, con tutto quello che Ferrero è un finto comunista. Ferrero è un finto comunista. Quello che può essere politicamente corretto. Finto comunista. Cosa tra uno Stato indipendente, come la Siria, come la Libia una volta, come l'Iran, preferisce come la Siria indipendente e l'imperialismo americano ed europeo, scelgo quei paesi. Cioè lei preferisce il regime di Assad agli Stati Uniti? Non nel modello sociale. No, mi dica. Lei il modello sociale che voglio io è il modello sovietico. Sovietico, Assad, il modello sovietico infatti è un modello reputato nel mondo per essere stato un modello grandissimo, un modello riuscitissimo, il modello sovietico. Che ha dato la felicità a milioni di persone. Ma perché questo modello che invece è imperante funziona? Ma lei campa tranquillamente? Certo, funziona, funziona. Non funziona. E ma lei, questo è il problema. Ma lei sta quando male? Saremo 15 lei sta miliardi male? Di abitanti lei vive sulla male, terra, lei vive male. Questo modello non funziona. Nel modello occidentale, ma lei vive male in questo modello occidentale? Vive male? Non mi sembra che lei viva male, no? Cioè si arrabatta tra uno stipendio qui, eccetera. No, fermiamoci un attimo. Allora, ma dai, su. Se stiamo parlando, se ridiamo, vabbè, va bene tutte le battute. Esiste se solo questo? Di Cuba, lei mi ha chiesto Cuba prima, no? Lei sarebbe a Cuba... Cuba, ma Cuba va vista non tra l'Italia e Cuba, perché se lei mi dice sta meglio in Italia o Cuba, io dico sto meglio in Italia, ma se invece guardiamo il contesto geopolitico, geografico di Cuba e mi chiede, lei sta meglio a Cuba o in Costa Rica? Ma in Costa Rica tutta la vita, ma da Cuba, ma da Cuba scappano verso Miami, ma da Cuba scappano verso Miami, nessuno da Miami va verso Cuba, non ne ho visto uno, non ne ho visto uno amico mio che da Miami va verso Cuba. Lo capite? Come? Non scappano verso Haiti. Ma infatti vanno, appunto, vanno a Miami, bravo, dove c'è la libertà, freedom, amore, ricchezza. Possono affrontare con l'Europa. Grattacieli. Possiamo fare una discussione se si sta meglio in Italia o in Francia, in Spagna o in Portogallo. Bene? Non si può fare un riferimento tra Cuba e l'Italia. Comunque lei vuole fare un riferimento tra Cuba e il Costa Rica. Ma infatti non vanno in infatti. Sono sicuro che la gente che vive nel Centro America, il paese in cui si sta meglio in Centro America è Cuba. Ma quando? Infatti scappano tutti. Comunque Costa Rica si sta benissimo. Vabbè, certo, se uno sta come sta la moglie di Dini in Costa Rica, certo, ma se sta comunque lei vuole l'Italia sovietica e questa è la cosa più importante. E che fine fa la Confindustria dell'Italia sovietica? Vero, non di quelli finti. No, ma voglio chiedere. Noi non vogliamo fregare la gente. Ma che fine se fa la comunista? È comunista, è marxista-leninista, ha un'idea di cambiamento radicale. No, ma infatti così, se invece non ce l'ha questa idea. Però è come e allora appunto può andare con Vendola, può andare con chi vuole. No, ma certo, però questa però... società con quella gente lì non la cambia. Scusi Rizzo, lei ha ragione. Cambiano i dirigenti del vapore, ma la nave va in quella direzione. Però, perché quando sento Renzi di dire che dice "e da 20 anni non hanno fatto niente". Se arriva Renzi, tra 20 anni diranno di lui. Non è successo niente, perché questo è il sistema. Cioè lei in Corea del Nord ci andrebbe ad abitare? In Corea del Nord andrebbe ad abitare? In Corea del... in Italia che in Corea del Nord, ma è chiaro. Ma se anche qua, la Corea del Nord è un paese indipendente dall'imperialismo. Beh si vede, infatti. Ma ci sono mille altri posti infatti in si vede. Si sta peggio. Infatti stanno con le pezze. Cioè, voi dovete capire questo. Non potete fare dei paragoni tra, che ne so... Lei sta meglio alla Crocetta a Torino o ai Parioli a Roma? Ma il paragone deve essere il meglio, il paragone deve essere il meglio, non il peggio. Io voglio grattacieli, denaro, hamburger, benzina, capitalismo, ricchezza, vetrine piene di oggetti. Intanto la ricchezza in questo paese, vi assicuro, tra stiamo calando. E vabbè, il capitalismo è fatto così, non è perfetto il capitalismo. Si sta proletarizzando. Ma non è perfetto il capitalismo, non c'è paese, non c'è un modello perfetto. Non esiste un capitalismo buono e un capitalismo cattivo, esiste il capitalismo. Ah, e nel capitalismo ognuno fa i soldi come può. Beh, certo. Ci sono quelli che lo fanno legalmente, quelli che lo fanno illegalmente. Vabbè, certo. E qual è il capitalismo? Allora qual è il problema? Non c'è un mondo migliore. La mafia. Ma non c'è. Ma non c'è un mondo migliore. Ma non l'ha inventato nessuno un mondo migliore. Rizzo, si arrenda. La ringrazio. Ho la borsa. Ho la borsa. Non mi arrendo perché credo che sia giusto fare così. Io sono figlio di un operaio. Sto da quella parte lì. Io la combatto. Urban Forum. Il WUF, il famoso WUF. È l'area urbana con maggiore densità abitativa, pur esistendo su un territorio ristretto, dunque per le sue caratteristiche assolutamente idoneo ad ospitare il WUF per discutere di sviluppo urbanistico. Una volta disse sosteniamo Ciccio Piemonto. Ma chi è? Chi è? Ma chi è? Da qui a lunedì dobbiamo tutti andare nelle case a sostenere il nostro sindaco, perché il nostro sindaco Ciccio Piemonto. Io ritengo che tu puoi ancora continuare a fare il lavoro. Poi la Fiat e Marchione, Fiat, a Fiat. Comunque non si tratta di un ricatto, si tratta certamente dell'azienda Fiat, insieme a Melchiorre hanno deciso di mettere in campo una nuova strategia. A Fiat e Melchiorre, 800 24 00 24. Ettore ci chiama da Milano, buonasera signor Ettore. Cruciani, buonasera, io sono Ettore di Milano, sono un tassista. Sì, bene. Le volevo dire una cosa, visto questo dato che lei non accetta del tuo, no, che lei, caro Cruciani, sì, è molto forte coi deboli ed è debole coi forti. Mm. Perché un'affermazione che ha fatto Sgarbi nei riguardi di sua mamma, sì, io, se ero io e lei, andavo da Sgarbi e lo facevo i due. Mm. Vabbè, ma lei è un violento, io no. Della troia alla mamma di una calma, persona. Calma. Non ripeta la stessa cosa. Dato che si è indignato, non ripeta la stessa cosa allora. Sì. No, io sto prendendo le sue difese. No, ma no, non c'è bisogno, mi difendo da solo. Conosco Sgarbi, conosco anche Parenzo. Ma guardi che ho chiuso la telefonata su quella frase, per cui bastava solo quello, non si preoccupi Ettore. Poi questa mattina ci siamo chiariti per telefono, non si preoccupi. Ah, stia siete calma. Telefonati con Vittorio? Ci siamo telefonati, sì, certo. Ha chiesto scusa? No, perché Sgarbi può essere quello che vuole, no? Ma io certe affermazioni su mia mamma io non le accetto. Ma scusi, ma che gliene frega a lei? Ma ha offeso me, mica lei. Vabbè, però no, dice la mamma, la mamma. Me ne frega, no? perché siccome che lei, Cruciani, è molto forte coi deboli. Ma che c'entra? Ma con i forti lei se la fa sotto e sta zitto. E vabbè. Sgarbi sarebbe un zitto. Non adesso, è così? Ma che dice? Ma di che sta parlando? Va bene, allora sono fuori posto io e lei a posto lei. Ma non, bene, è, non è questione di essere fuori posto, Ettore. Non è questione di essere fuori posto. È questione che Sgarbi è fatto così, gli è scappata questa cosa, ho chiuso il telefono, punto. La cosa si chiude qui. Fabio da Enna, buonasera. Si può drammatizzare tutto. Fabio, no, si deve drammatizzare però. Da Empoli, buonasera a lei e agli ascoltatori. Da Empoli, perché mi hanno scritto da Enna, non lo capisco. Comunque. Vabbè, pazienza, niente di male. Volevo sapere una cosa da lei. Non sento niente, Andrea da Milano. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Vorrei fare una battuta su Renzi, però un'informazione da parte sua. Per quanto riguarda le primarie, vorrei capire, ma com'è il meccanismo? Cioè, a me lo chiede, lo chiede al Partito Democratico. Capire, per capire se Renzi può essere tagliato fuori dal discorso delle primarie, no, oppure no. Ma non sarà tagliato fuori, farà le primarie. Cioè, Andrea, poi non lo chiede a me, lo chiede a quelli del Partito Democratico che non sanno ancora come fare le primarie. Cioè, aperte, chiuse, no, chi può votare, chi non può votare. Cioè sta già correndo per la leadership, per contendere la leadership del PD. Quindi non... Ecco, perfetto, perfetto. Allora, sperando che sarà candidato Renzi, sì, ecco, vorrei dire che secondo me potrebbe essere un buon candidato da votare per le persone che come me sono schifate dalla politica, cioè dalle persone che sono stufe di queste facce, di questi... di queste vecchie carampane, questi impagliati che ci sono da una vita. Quindi io sinceramente, che sono un elettore di centrodestra, che è... A lei piace Renzi? A me piace Renzi, è un... Beh, giovane. A molti elettori di centrodestra piace. Ecco, grazie, grazie Andrea, grazie. Sempre Cesaro? Eh beh, proviamo. Chissà che cosa starà facendo sto personaggio. Organizzando altri convegni internazionali. Sì, sarà là al WUF, sì, al WUF, al World Urban Forum. Ah, secondo me si è accorto che lo stiamo chiamando, eh. Si è accorto che lo stiamo chiamando, il signor Cesaro. Grazia, provincia di Brescia, buonasera. Buonasera. Buonasera, signora Grazia, come sta? Io sto bene. Vivo sul lago di Garda, perciò sto meglio, penso di star benissimo. Terribile. Beata lei. Vivere sul lago è terribile. Siamo stati qualche giorno fa sul lago di Garda, un posto straordinario, sì, so, bellissimo. Siete venuti anche all'inizio dell'estate. Allora? Sì, mi viene una depressione. Dunque, se penso al lago. Io seguo la vostra trasmissione dalle 6:30 di mattina. Sì. E guardi, penso che sia una trasmissione, una radio meravigliosa, perché mi ha arricchito tantissimo. Seguo Milan, seguo Giannino. Sì. Seguo, già ho capito dove vuole arrivare. Ho capito dove vuole arrivare. Ho capito dove... Proprio, sono nauseata. Ecco. Questa sera per caso avevo ancora acceso la radio, perché sono vari giorni che io non vi ascolto più. Certo. E nel passare davanti alla radio ho sentito le parolacce di Sgarbi. Sì. Guardi, è ora di finirla con questi politici da strapazzo che voi ospitate sempre lì. È un modo per denigrare questa radio meravigliosa. Denigrare la radio. Mi dà tanto. Voi togliete tutta la sua dignità con il vostro modo di trasmettere questa trasmissione assolutamente, assolutamente offensiva. Offensiva per chi? Scusi. Di chi la fa, si ascolta. Offensiva, benissimo. Ha telefonato signora, con questa voce, no, molto, che sembrava così gentile. Invece, ma è gentile, una signora gentilissima. Una signora gentilissima. No, ma io, secondo me, ha ragione. Lei ha fatto molto bene a chiamare, signora, eh? Ragazzi. Ha fatto molto bene. Mi fa piacere, però, cercate di mettere in atto quello che dite. Dobbiamo confessarci. Dobbiamo... dovete confessare, perché penso che, però, guardate, io accetto tutte le critiche, io le politiche, ma non le parolacce. Le parolacce, no. Che le parolacce no, le parolacce ma è invece... stato Sgarbi. Le parolacce è una cosa inaccettabile, vabbè, grazie. Ma lei le sente ogni tanto le parolacce da qualche parte? Per strada? Quando esce di casa? Sì, diciamo. In una piazza? Le sento da qualche parte. Al bar? E danno molto fastidio. Al bar e danno fastidio. Però esistono, no? Esistono, giusto? Esistono. Le proprie idee... Niente, non si sente più. Fabio D'Alessandria, buonasera. C'aveva il... Buonasera. Dica. Buonasera signor Cruciani. Sull'onda della registrazione del presidente della provincia di Napoli, però io per par condicio, e così con tutto il rispetto necessario, però bisogna dire che anche l'inglese di Monti e l'inglese di Draghi non è eccesso. Beh, ma che dice adesso Fabio? Ma mi sembra, di che sta parlando? Il paragone mi sembra improprio, quantomeno. Beh, quantomeno improprio, ecco. Ma in relazione alla differente livello di carica, insomma, un advisor di Goldman Sachs, quando si siede davanti al direttore generale, avrebbe dovuto avere quell'accento da high class, da alta classe, non da business. Vabbè, adesso però non mi pare il caso di paragonare l'inglese del signor Draghi all'inglese del signor Cesaro. L'inglese è una lingua che io non conosco, ma ho studiato, diciamo, dal punto di vista. Ma poi quello culturale non è inglese, scusi un attimo Fabio, in quel caso non c'è nemmeno il tentativo di parlare inglese, perché sarebbe un disastro totale, credo, immagino, certo. Non voglio dire nulla. C'è proprio la traduzione... di questo World, come diavolo si chiama? World Urban Forum. Esattamente in questo modo. World Urban Forum. E siamo a questo livello, caro Fabio. Uno potrebbe anche dire quell'agenzia delle Nazioni Unite per il Forum delle Nazioni Unite per le città, una cosa di questo tipo, invece di World Urban Forum. Enzo D'Agrigento, buonasera, grazie Fabio. Buonasera, signor Cruciani. Vada. Sono, sono Enzo della provincia di Agrigento e volevo intervenire a proposito delle minchiate che ha detto ieri Sgarbi, sì, per questa sua discesa in campo per l'elezione regionale della Sicilia. Io gli dico che in Sicilia non abbiamo più bisogno di persone come Sgarbi, l'abbiamo già visto come sindaco di Salemi, ha fatto schifo, il consiglio comunale è stato sciolto per mafia, lui si è dovuto dimettere prima che lo sciogliessero, e poi questo linguaggio così grilliano, lei l'ha definito show, l'ha definito teatro allo stato puro ieri, prima che poi la insultasse. Sì. Ebbene, questo non è teatro, questo è un guisto. I teatranti si chiamano Turiferro, Pini Caruso e la terra di Pirandello a Agrigento, ha capito? Gente come questo qui, che poi è un emiliano, ma perché non si canta l'Emilia Romagna? Noi in Sicilia abbiamo bisogno di persone che vogliono bene alla Sicilia, che non toccano le maniche, come dice Parenzo, e che fanno per la Sicilia. A noi vanno bene i Claudio Fava, i Crocetta, pure i Miccichelli, se vuole, che avete intervistato l'altra sera. Vabbè, ho capito. Il caso è chiuso con la Sicilia, glielo dico forte e chiaro. Vabbè, ma non abbiamo i gabbatini pieni di questo linguaggio. Ma non si accalori così. Quello intelligente, quello anticonformista. Abbiamo bisogno di persone che sanno cos'è la Sicilia, come si combatte la mafia, come si creano i posti di lavoro. Abbiamo un presidente della regione che è in galera, un altro che si è dimesso per mafia. Adesso arriva Sgarbi che sostiene la rivoluzione siciliana, lui che è di Ferrara. Abbiamo smesso di ridere e di piangere. Senti, ah, insomma, che passione. L'autore dei 100 pazzi. Ma non si accalori, stia calmo. Non si accalori. Non si accalori. Non Crociani, intervista a Claudio Fava. Figlio di Pippo Fava, ucciso nella mafia. Perché non lo chiamate? Ma chi l'ha tirato? Beh, lui può parlare di teatro, ma teatro vero, non quel intervista a Claudio Fava. Questo c'ha ragione. La passione. Ecco, però questo è un appello civile. Cioè, bisogna dire che finalmente una trasmissione come questa, ogni tanto, ci sono degli appelli civili alle coscienze dei popoli. Intervista a Claudio Fava, anche Crocetta, prima che parlassi di sesso, ecco. è stato ma non li devo intervistare io, dalla mafia, sindaco di Gela, simboli, ha ragione, bravo, Sgarbi che viene a fare il pedone con questo linguaggio così grilliano, l'autore, come ha detto lei prima, come ha detto lei prima, cazzo, non è bravo, non è. Abbiamo dato, signor Cruciani, abbiamo dato. Vogliamo gente bella, gente per bene, come Claudio Fava, lo intervisti ancora questo l'autore di come un cane. Raccontiamo la storia di Peppino adesso. Impastato, ha ragione, questa è la Sicilia da mostrare, questa Sicilia deve vincere il 28 ottobre. Abbiamo già dato con il cuffarismo, con il lombardismo. Bello. Ci vuole discontinuità. Questo è un bel tentativo di Salemi, glielo ricordi a Sgarbi. Questa è Radio Civile. Aspetti, vedi, un attimo, guardi che le regalo. Guardi che le regalo, Enzo. Se voi non vi siete mai drogati, se non l'avete mai preso nel culo, se volete scopare ancora, il vostro partito è la rivoluzione. La cosa più semplice è questa. È questa. Se lo volete prendere nel culo, se volete drogarvi, se non volete scopare più, votate, ci sono tanti partiti, votate UDCC, UDC, PPPP, che queste cagate di merda, di nomi del cazzo, di teste vuote, senza un'idea in zucca. Definizione semplice. È una meravigliosa pièce teatrale, io continuo a pensarla così, quando nonostante... Quando alla fine dice definizione Enzo, però semplice. Lei dice, invitate Claudio Fava. Abbiamo conosciuto a Salemi, quando si è candidato a Cefalù, è arrivato terzo. Lei forse queste cose non le sa. Ma le so, perché io le seguo queste vicende, capito? Vabbè, ho capito, perché ho capito. Mi piace la politica, ma va bene, quella vera, quella lei Fava. Fava, ancora questo Fava. Quelli che hanno pagato col sangue, dei violatori. No, questo è un gran problema. Sembra un attore. Sgarbi appena lo sente di nuovo. Ha capito? Sembra la passione civile di un uomo che decide di telefonare alla radio e spendere il suo tempo per ricordare le battaglie di Fava, le questioni vere che attanagliano, che bloccano la Sicilia da uno sviluppo potenziale straordinario. Ma sei impazzito? Dove vuoi andare? A Radio Popolare? Dove vuoi andare? Grazie Enzo. Storie di operai, di lavoratori, i minatori, gente che lotta ogni giorno. Lei se ne dimentica, possiamo anche con ironia ricordare, lei ogni giorno si dimentica di questo pezzo di paese. Sì, assolutamente. E ci fa sentire Mr. Cesaro. Bene, atto 00240024, siamo qui, abbiamo un grande ospite. Che taglio? Ma che è sto taglio? A Roma dicono sempre che taglio. Beh, ma spiegati, sennò la gente non capisce. A Roma è un'espressione romana, tu sì, sei di Roma, no? No, ho capito, ma se lo dici che così non taglio, si taglio, come dire, bello, divertente. Che ma non è così, non si dice così. No? Non si, no, se lo dici tu non si capisce. E come si dice? Abbiamo con noi uno dei miti del PDL, se ancora esiste il PDL, che si chiama Guido Crosetto. Ah, buonasera. Una brava persona Crosetto. Sempre. Buonasera a voi, scusate, ma sono in treno, quindi non si sentirà molto bene. Dove... Ma da dove va? Dove va di mercoledì? Dove va? No, di giovedì. Giovedì. Dove va giovedì? Non si sente niente. Benissimo. Ruggero dalla provincia di Brindisi. Bene. Ruggero dalla provincia di Brindisi. Ma naturalmente nessuno muove? Mi aveva detto che era in treno. Ma perché si muove? Ruggero, provincia di Brindisi. Sia a casa sua, no? Buonasera dottor Cusciani. Vada. Finalmente la sento. Auguri, complimenti alla trasmissione e mi saluto al mio Parenzio. Anche come dice? In forma della bellissima coppia. Parenzo, allora, però. Parenzo. Dovevo... Amore? Parenzo. Ripeti con me. Parenzo. Ripeti. Guarda il labiale. Parenzo. Parenzo. No, ripeti con me ancora. Parenzo. Parenzo. Oh, Parenzo. Bravo. Ce la puoi fare. Senta un po'. Noi che siamo già stufi di tutti questi politici di quattro soldi che abbiamo, no? Beh, sarebbe giusto, secondo me, non fargli fare più di due legislature. Qualcuno ne ha proposte tre, ma per me sarebbe già da tanto due legislature. Poi volevo dire ai nostri amici, oggi democratici, ieri comunisti, che non sarebbe tanto bene, come parlava il dottor Rizzo poco fa, della sua Cuba, magari se ne andasse a Cuba, gli diamo anche noi il passaporto per andarsene. O magari nella sua Russia socialista, che tanto gli piace, sarebbe tanto bello mandarlo in Russia, come tanti altri compagni che oggi sono. Ma in Russia non è più comunista. Vabbè, sarà ha detto una cazzata su Ruggero alle 19.49, ha detto una cazzata, non c'è problema, cioè, è la cazzata delle 19.50, ma non c'è problema. Come andiamo in un paese? Vabbè, un paese ha detto la cazzata del giorno, la ringrazio. Fabio da Empoli, su. Ok, andiamo lì, grazie. Fabio da Empoli. Mi sente? Sì, la sentiamo, dica. Senta, volevo chiedere a Cruciani come mai non ha aderito al movimento di Oscar Giannino fermare il Detino.it, visto che io non aderisco a nessun movimento. Bene, grazie. Parenzo, siamo contenti che non abbia aderito perché non ce lo vogliamo. Dopodiché faccio il tifo. Che condivido. Ma lei francamente faceva piacere averla con noi. Ma non è che averla allora con voi. Aderisco. Io sono... Allora guardi, adesso che mi dici così aderisco al movimento. Fabio, io sono con voi, metto una firma da qualche parte, no, nel senso sono assolutamente d'accordo al 100% con quello che sostiene. Con alcune cose che no, sostiene io con tutte. Sicuramente lo spirito. Vabbè, tu sei il solito con alcune. No, io con tutto. Io distingo, non è che sono un militante al 100%, io non sono militante di nulla. Sono d'accordo al 100% e spero che si crei qualcosa di serio. Anch'io e spero che il signor anch'io. Giannino scenda in politica in prima persona. Certo, io questo spero. Me lo auguro. Dunque, lei che invece è iscritto lo convinca, perché ancora non ho capito bene quello che succede in queste ore. Montezemolo, le primarie, si candida, non si candida, eccetera, eccetera. Lei l'ha capito, Fabio? Lei che ha aderito al movimento? Io? Ho capito, certo, ho capito, sì. Ha capito, eh? Mi raccomando, tenga lontano Parenzo. Ma no, ma perché? No, ma che fa la setta? Vuole fare la setta di Giannino, lei? La setta di Giannino? No, la setta no. Per l'amor di Dio, la setta no. Appunto, su molte cose che sostiene Giannino sono d'accordo. Benissimo, Fabio, la ringrazio. Cose. Alessandro da Cuneo, buonasera. Da Cuneo. Buonasera, Cruciani. Sì, dica. Sì, niente, io intervenivo per questo, perché ho sentito il compagno Rizzo, no? E mi sono sentito male, perché è la prima volta che vado d'accordo con Rizzo. Si pensa che io sono fascista, quindi si figuri. Cos'è lei, scusi? Ma sono fascista. Però quando è sano di mente lei, sì, è sano? Sì, sono sano di mente, sì. Parenzio, non si preoccupi. Pare, ascolta, ripeta con me, con calma. Sì. Faccia un sospiro di un sospiro così. Si concentri, ce la può fare anche lei. Parenzo. Parenzo. Ma lo sa, noi di destra un po' più radicale siamo un po' più duri di comprendonio. No, non voi di destra, lei solo. No, non solo voi io, di destra. Perfetto. Solo lei. Perfetto, però quando il compagno Rizzo parla di Assad, sì, dice delle cose sacrosante. Ecco qua, perché, un altro. Faccio un esempio. Ma se le piacciono i dittatori, ma se le piace ma così. Ma non è che mi piacciono i dittatori. Ma se le piacciono Assad... i dittatori, ma se le piace, ma se... allora vada lì, vada da Assad e non rompa le balle qui. Che allora, devo dire? Scusi, faccio una domanda, Parenzo. Ma se domani in una qualsiasi piazza di Roma c'è una manifestazione non organizzata, violenta, contro le autorità costituite dello Stato, le forze di polizia o l'esercito, non intervengono, pur che siamo in una democrazia. Ma come ragiona? Siamo ma... al delirio delle 19.52. Ma come delirio? Siamo al delirio, su, Alessandro. Ma uno che telefona e dice sono a favore di Assad, poverino, no. va compreso, abbracciato, ma accarezzato. Il popolo siriano è dalla parte di Assad, i terroristi... Che stanno agendo in Siria, arrivano dalla Libia, arrivano da altri stati, non sono siriani. Guardi, l'unica cosa che arriverà tra un po' è un'ambulanza, ma per portarla via, amico mio. Vabbè, l'importante è che non mi mandate la Digos, poi finché arriva l'ambulanza va bene. Però... Perché la Digos? Perché ha dei precedenti lei. No, non ho precedenti, però le faccio l'esempio che se in Siria ci sono delle manifestazioni contro l'autorità costituita, interverrà la Digos locale. Ma giusto? C'è il diritto di sparano, gli sparano addosso, perché se io scendo in piazza Roma e sparo, ci sarà qualche cecchino delle forze dell'ordine che mi no, ma lei neanche con una settimana di ricovero la rimettiamo in sesto. Comunque ci occuperemo del suo caso, amico mio. Grazie Alessandro. Camillo da Chieti, buonasera. Buonasera, non da Chieti, ma da Vasto. Da Vasto, sì. Ah, Vasto, allora. La foto di Vasto, bravo. Sì. No, non è la foto di Vasto. No, finalmente Di Pietro se n'è andato da quella foto, così stiamo meglio. Dica. Allora, dottor Cruciani, non mi interrompo perché sennò mi fa perdere il filo. Io volevo dire le due cose. Ma io faccio quello che voglio, la posso anche interrompere, comunque dica. Sì, no, le sto dicendo, le sto pregando, non interrompe. Beh, dipende quello che dice, Camillo. Vabbè, che vuole che dica quello che fa piacere a lei. No, no, allora, no, assolutamente. Le faccio una promessa. Al contrario. Una premessa, lei non mi sta simpatico, mi stava simpatico più l'altro conduttore. Però io volevo chiederle scusa a lei e alla sua mamma, che sarà una bravissima persona, per le ingiurie, mi sono sentito umiliato io per quelle parole che ha detto quell'animale, che quello là è un animale. Dire queste cose ad una persona, questo non l'avrebbe detto manco il peggior extracomunitario. Io non c'è stato, cioè non mi offendo io, non mi offendo io e si offende Camillo da Vasto. Che significa? Mi offendo io perché quella è una forma irriguardosa, irrispetto, ma come? Un personaggio pubblico si permette di dire, ma lei lo sa che io capisco, lei scusi, ma mi lasci cioè, la libertà di arrabbiarmi o no? La libertà di prendermela, Camillo? Ma io non dico che lei se la magari me la prendo tra qualche giorno quando lo richiamo. Stia calmo, stia tranquillo. No, io sto tranquillo e sto calmo, io non mi sto riferendo a lei se la può prendere o meno. Però a me, ascoltatore di Radio 24, non è dispiaciuto, mi ha dato fastidio, mi ha dato fastidio. Così come vorrei pregarvi, qualche parolaccia ogni tanto ci sta bene, però da quando ha ricominciato il programma quest'anno, dopo le ferie, il programma è diventato un po' troppo a volte scurrile. Hard. No. Hard è una cosa, scurrile è un altro. Non faccia lo spiritoso con me, dottore. Ma è la stessa cosa, su, in quel senso intendevo. Lei è un sapiente, un giornalista. Ma che sapiente? Mi dici che la stessa cosa. Ma no, ma hard è la cifra del programma, mamma mia, Camillo, che seriosità. Hai visto le parole nuove di Napolitano, no? No, non l'ho viste, partiti non l'ho sentite. Partiti in crisi, più democrazia e meno corruzione. Beh, volete sentire qualcosa di straordinariamente esilarante? Facciamo gli auguri a Giuliano Ferrara, però, che è ricoverato all'ospedale. Facciamo di... gli auguri, va bene, ma no, non è una trasmissione in cui si fanno gli auguri. Gemelli. Io gli voglio bene, ma non è una trasmissione in cui si fanno gli auguri. Però il tuo cinismo è estremo, cioè si tratta di persone. Ma ho capito, ma non è una trasmissione in cui io faccio gli auguri alle persone che stanno in... Giuliano, ci ha chiamato un sacco di... Ma io non ho detto facciamo gli auguri al mio portinaio. No, ma sarebbe meglio, facciamo gli auguri a Giuliano Ferrara, che è ricoverato all'ospedale. Ma certo, gli faccio tanti auguri. Abbracciamo, torna presto, lotta con le tue battaglie. Con il foglio, ti vogliamo di nuovo combattente. Che bello, è umano. È umano. Ma io non faccio una trasmissione umana. Perché lei vuole dare l'immagine di cattivo dentro, invece lei non è cattivo. No, è ma la cosa più bella è l'intervista di Radio Rai 1 sì. A Assunta Legnante, che ha vinto, credo, la medaglia d'oro. alle Paralimpiadi, alle Paralimpiadi. Sentite, vi prego, vi prego. Parliamo vi del scongiuro. Servizio pubblico, giusto? Parliamo sì, di giornalisti del servizio pubblico. Sì, del servizio pubblico, sì, della RAI. Sì. Le domande alla signora Assunta Legnante. Senta, lei un po' la vita l'ha cambiata forse da, da questo fatto che ha avuto poi. E, tanto. Ma è diventata cieca. Tanto, perché comunque cioè, diventare non vedente così all'improvviso e ti cambia completamente. Beh, ti credo, la vita cambia, è cambiata. Completamente, perché comunque non sei più autonoma e devi, devi comunque dipendere dagli altri. Domandone, La vita è cambiata da quando è cieca. Ci manca altro che poi adesso gli dica: vabbè, allora ci vediamo, eh. Come ci vediamo? Convive? Ma che se convive? Ma che vuol dire convive? Sentiamo. Come? Vabbè, lei mi ha detto che convive comunque. Sì. Perché comunque? Questa è già una buona cosa. Ma è sempre perché cosa. Comunque? Il mio compagno è mia. Quando ricominci a fare ciò che ti piace veramente, non è soltanto una gioia in più. Poi dice: la invidio, Londra è una bella città. Senti, senti. Quanto rimarrà a Londra su Talegnante? Ritorno in Italia il 10. Dici poi 10 sera sono in Italia. Sai che un po' la invidio, perché Londra deve essere proprio una bella città. E la mia impressione. Più la posso vedere Londra. ma la può sentire, la può sentire sicuramente, la può sentire. È una bella città. Ma che sente? Sente il Big Bang che rintocca. Ma come si fa a fare delle domande così? Perché è proprio è la summa del del falso politicamente corretto. Ma non è nemmeno politicamente corretto, è che uno non c'ha niente da dire. Lei aspetta, con quella cosa lì. Mi sembrano, poi dice sempre questo cieca, signore che si fine, chiama Ruggeri, una credo. Straordinaria atleta. Aspetta, cieca. Olimpiadi più leggere, una bellissima cerimonia di apertura. Senti, Olimpiadi più leggere, ma che vuol dire più leggere? Senta, devo dire che la mia impressione è che in queste Paralimpiadi ci sia stato sicuramente, vabbè, questo è la palissiano, è ovvio, cioè, più, un po' più di calma delle Olimpiadi canoniche, eccetera, eccetera. Però che di calma, state, non so, più a misura d'uomo, più leggere, a misura più, d'uomo, non è questo, anche se lo stadio poi era pieno, insomma. È la più prima leggere, dove vi è andato veramente onore agli atleti e vi è in vista più. Quasi più delle Olimpiadi stesse. Bene, 800 24 00 24. Noi non ci dimentichiamo mai quello che disse da noi sulle Paralimpiadi Paolo Villaggio, vogliamo risentire, sì, sulle Paralimpiadi. Devo dire che dopo quello che ha detto Villaggio abbiamo vinto medaglie d'oro, le Olimpiadi sono state, le Paralimpiadi sono state hanno avuto record di ascolti pazzesco. Dunque, da un certo punto di vista è stato smentito il Villaggio. Le Paralimpiadi, tutto considerato, fanno molta tristezza, sinceramente. Non è che sono entusiasmanti, ma non si dovrebbero fare, no? Non si dovrebbero fare, perché sembra una specie di riconoscenza o di esaltazione della disgrazia. Invece no, sinceramente non fa ridere una partita di pallacanestro con gente seduta a rotelle. Ecco, è una cosa che zumba. Eccoci, 800 24 00 24. Durante la festa democratica a Genova, dibattito molto acceso tra Rosi Bindi e un dirigente locale di SEL. Mi può dire perché non vuole che io mi sposi? Chiede questo dirigente di SEL. Io ti auguro di fare tutto quello che vuoi nella vita, risponde la Bindi. Ma in questo paese c'è la Costituzione, il matrimonio è un istituto che è stato pensato storicamente per gli eterosessuali. Potreste avere più fantasia nell'inventarne uno vostro. Ormai la Bindi la inseguono dappertutto, ovunque va. Scatenata. Oggi, tra l'altro, una dirigente di SEL a Bologna, ha fatto anche una battutaccia su Facebook. Sì, eh? Ma non mi, questa non mi sembra una battutaccia. Sì, quindi diamo la notizia. Raccontala agli ascoltatori. Dice questa capogruppo di SEL in consiglio comunale, scrive su Facebook, nella polemica tra Vendola e Bindi sul matrimonio di Vendola, dice: avrei capito tanto stupore solo se la Bindi si volesse sposare. Ma devo dire, insomma, giustamente, infatti, la consigliera di SEL ha detto: le mie presunte gaffe chiedono una precisazione. Rosi Bindi ha annunciato di aver rinunciato alla propria vita sentimentale e sessuale molti anni fa e lo ha fatto a mezzo stampa, quindi ha reso pubblica questa cosa. Però è chiaro, dice, stupisce di più il matrimonio della Bindi, un eventuale matrimonio della Bindi, che è un matrimonio sì, di ma Vendola. Ma spiegato, adesso non mi frega nulla difendere SEL. Le spiegazioni, le spiegazioni non valgono in questo caso. Non mi sembra offensivo. Domenico però. Da Napoli, 800 24 00 24. Buonasera dottor Cruciani, buonasera Parenzo. Dica. Io volevo solo dire una cosa. A me, più che far ridere la battuta di Cesaro, sinceramente a me mi indigna in quanto... Un attimo solo. Pronto? Diego Volpe Pasini alla Zanzara, buonasera. Grandissimi. Come va? Ho sentito degli insulti infiniti contro di voi ieri sera, ieri notte. Beh, insulti. Sgarbi se l'è un po' presa perché a un certo punto abbiamo detto, vabbè, ma che avrà detto mai Michiché che da giovane si era drogato, anche tu te la sarei fatto ogni tanto qualcosa da giovane, no, sei indignato. Sì, hai detto anche tu ti sarai drogato. Vabbè, da giovane, sì, quello, lui si è incazzato come una iena, una cosa francamente esagerata. Ma perché chiamiamo il signor Volpe? No, esagerata perché ha citato tua madre, perché quello non si fa mai, insomma. E quello, vabbè, quello me lo riservo, lo sto ancora... È sempre il babbeo finto padovano, sei sempre, oppure l'hai mandato via? È qui. Ma perché intervistiamo Volpe Pasini? Eccolo qua, perché intervistiamo Volpe Pasini? Perché nella radio, alla radio di Confindustria, alle 20:06, dobbiamo sentire Volpe Pasini? Perché su che cosa lo intervistiamo, Volpe Pasini? Firme. Allora, Diego Volpe Pasini, già che è stato smentito da tutti, nessuno lo vuole. Ha fatto la manifestazione con tre persone, c'erano più giornalisti che aveva col simbolo Forza Italia. Subito l'hanno accannato e gli hanno detto: oh, amico mio, il simbolo non lo puoi utilizzare. No, questo non me l'ha mai detto nessuno. Attenzione, non dire baggianate. Nessuno l'ha mai detto. Ti hanno smentito tutti. Chi? Tra un po' anche te stesso ti smentirà. È vero. Fai delle cose incomprensibili. Almeno io esisto. Cose Scusa, Volpe, caro Diego, io voglio capire una cosa. I tuoi rapporti con Berlusconi a che punto sono? Ma non è vero nulla, tutto falso. Ma dai. Berlusconi non mi conosce, come sapete perfettamente. No, dai, lo conosci. I tuoi rapporti oggi quali sono? Perché c'è gente che ti vuole tenere lontana da lui, è vero? Ma ti credo. A me? No, di la verità, c'è gente che ti vuole tenere lontano da Berlusconi. Ma può darsi, ma Berlusconi è autonomo, se si fa condizionare dalle persone allora sarebbe gravissimo. Quanto lo senti? Quante volte lo senti Berlusconi? Non è un fatto numerico. Vabbè, più o meno, due volte a settimana, tre volte a settimana. Mai. Vabbè, adesso tu dici mai. Non l'ho mai sentito. Tu dici mai perché non vuoi poi creare polemiche. Una volta dicevi lo sento spesso, vado a casa sua e gli ho consigliato. No, non è che una volta era serenamente possibile dire le cose e adesso bisogna dire quello che va bene ad alcuni e va bene. Ma Grande Italia ti piace? Grande Italia? No, mi fa schifo proprio. Ah, ti fa schifo anche Grande Italia? Anche perché prima di tutto non è suo, ma è di altri. E di altri, e quindi, che vuol dire? Italia è di quelli che avevano fatto Grande Sud, Grande Nord, Grande Centro. Poi Grande Italia è un'organizzazione di giovani in giro per il mondo, giovani italiani nel mondo, cioè non è un Beh, però simbolo. Pare che a Berlusconi piaccia questa roba qui, o no? Sì, beh, ci aspetta ancora un po', facciamo le elezioni intanto. Ma stai criticando Berlusconi allora? No, critico le scelte politiche, le non scelte politiche di Berlusconi, sì, assolutamente. Cioè, perché cosa ha sbagliato adesso? Adesso Volpe Pasini. Non ha sbagliato, sta perdendo tempo, secondo me. Sì. E sta... Perché non sceglie, non sceglie, non decide. Non prende una posizione netta, chiara, perché, diciamo così, si fa condizionare troppo da chi gli sta attorno e rischia di non essere più Berlusconi come noi lo conosciamo. Perché se abbiamo a che fare con l'originale... con quello vero, sì, con tutti i suoi pregi e difetti, sì, allora è un uomo straordinario che è in grado di trascinare le montagne. E invece? Se invece si fa plasmare per ragione di Stato o ragione politica alle logiche romane, c'è troppo condizionato ancora dai dirigenti del PDL, la Russa, Cicchitto, Gasparri, cioè imprigionato da questi? Beh, molto molto condizionato da gente che cerca di salvare se stessa, cioè, e non gli frega assolutamente nulla di quale sarà il risultato successivo e soprattutto del futuro del presidente Berlusconi. Con grande rispetto. Dimmi. Già la gente ha avuto una giornata di lavoro molto stressante. Tranne te che non fai già un cazzo, la gente deve tornare a casa la sera. E uno deve sentire l'analisi di Diego Volpe Pasini sui rapporti con Berlusconi. Ma di che parliamo? Parliamo di cose che sappiamo. Invece se tu parli del lavoro... E sarebbe carino che tu un giorno andassi a lavorare, almeno un giorno. Io lavoro sette giorni su sette, hai capito, Volpe? Sette giorni su sette lavoro, hai capito? Sette giorni su sette, Volpe Pasini. Ha ragione Volpe in questo Ma che vuol dire lavorare? Quando parli del lavoro, inventore di simboli. Ma io mi sveglio la mattina, sono andato alle 6:30, hai capito? Sono venuto a Milano, sto lavorando, ho fatto incontri, ho scritto. Scritto, le cose... Infatti non vediamo l'ora di leggerle. Allora abbiamo la pubblicità, torniamo con Meno Diego male. Volpe Pasini, Meno ex male. Consulente, chiamiamolo ex, così ex, non tutto, so. Ex tutto metti, ex AIDER, ex Movimento SOS, non mi ricordo che cosa, ex Berlusconi, però sarà anche ex Volpe, vedrai. la bomba lanciata da Carlo Taormina ieri alla Zanzara. Ho detto delle cose molto forti. Ho dei documenti decisivi sulla vicenda di Ilaria Alpi. Noi scherziamo naturalmente, però sono cose gravi, eh. Io ho un documento riservato e che non ho mai esibito, da cui risultano certe cose, ma non le voglio dire perché non voglio sangrare la memoria di nessuno e non voglio dare fastidio ad una famiglia che, nonostante abbia per anni rotto le scatole con la creazione di questa icona, però è una famiglia che va rispettata. Un documento segreto, segretissimo, lo vuole rivelare solamente se lo deciderà la famiglia. Ma chi è la famiglia? Dovrebbe... Dite alla famiglia Alpi, se mi autorizza, tira fuori le carte e io lo tiro fuori. Riguarda delle cose, basta. E la carta è a disposizione mia. Le carte. Perché a disposizione mia? Cosa vuol dire? Le carte di Carlo Taormina. Siamo con Diego Volpe Pasivi al telefono, mitico. Da Roma, da Udine, da dove? Da Roma. Allora, Volpe Pasini, che succede? Io non riesco a capire. Berlusconi non si decide a rompere con la vecchia guardia, diciamo. Non vuole fare un altro partito, un'altra lista. Stai zitto. Un'altra partita, un altro partito, un'altra lista. Ma non è che hai in mente qualcosa tu? Ho in mente qualcosa io? Sì, certo che metà parte che il babbeo c'è sempre, oppure sei andato... Sono qui, Volpe, eccolo là. Anche perché lui non legge i giornali, perché non li capisce, però se leggesse il giornale vedrebbe che, per esempio, sì, quell'ipotesi scritta da me e tanto sbeffeggiata da lui, cioè dal babbeo, di Renzi come ipotesi di candidato presidente per il centrodestra, adesso è in tutte le pagine dei giornali, addirittura con i sondaggi fatti da Libero che dimostrano che il 68% degli elettori del centrodestra gradirebbe questa cosa. È vero, dunque. Quindi, tu fai il tifo per Renzi come leader del centrodestra? Io faccio il tifo per un centrodestra vincente. Sì. E può vincere solo con Renzi? Può vincere solo con Renzi il centrodestra? Beh, può vincere solo con Renzi. Se Berlusconi non si decide a candidarsi, non lo fa con la forza che dovrebbe avere, e lo fa come una cosa subita, è meglio che non lo faccia, perché non lo deve subire, ma lo deve volere. E se dovessimo decidere oggi, tu ed io, chi è la persona migliore da candidare, non come centrodestra, ma appoggiando una sua lista civica, è Matteo Renzi, perché è più vicino all'elettorato del centrodestra di chiunque altro ed è sicuramente uno sfogo straordinario. Ma se non ci dovesse essere neanche Matteo Renzi, sarà sicuramente qualcun altro. Cioè, per esempio chi? Ah, per esempio, sicuramente se Berlusconi non completa, siccome Berlusconi è il vero rivoluzionario italiano, e Berlusconi nel 94, se questa sua verve rivoluzionaria è finita, in questo momento voi è indispensabile, indispensabile presentare agli italiani degli elementi di novità forti. Dopo i professori possono anche governare gli alunni, forse fanno meglio gli alunni dei professori, visto il risultato che stanno portando. Io credo che ci sarà spazio assolutamente per la candidatura di persone normalissime. Cioè, il babbeo che assolutamente... Ma io non ho capito, Volpe Pasini, mi dicono... Cosa vuole fare alle prossime elezioni? Ma sicuramente parteciperò. In che modo? Candidandosi? Un evento clamoroso proprio. In che modo, scusi? Beh, insieme a tutti gli amici parteciperemo. Se ci sarà Berlusconi con la lista, con, diciamo così, la capacità di innovare completamente, rinnovare completamente il PDL, come si chiamerà, lasciando a casa tre quarti dei suoi dirigenti. Con allora Berlusconi, se no, Berlusconi va a fondo con i suoi dirigenti, si farà uno spazio enorme e daremo un'alternativa molto divertente e credibile agli italiani. Cioè, chi si candida Presidente del Consiglio? Ah, si può presentare, non so, candidiamo Cruciani? No, io no, che c'entra? Ma si vuole candidare lei per caso? Io? Io sono come tutti gli altri, posso fare l'alunno come gli altri. Vabbè, dai, adesso scopriamo le carte, Volpe Pasini, scopriamo le carte. Ma non è che una cosa di scoprire le carte, ti sto dicendo. Poi diamoci del tuo, non del lei. Diamoci del tuo. Il babbeo c'è sempre. Dopo sì, perfetto, benissimo. Sentiamo vicino, perché oggi è lì vicino. Sono in silenzio ad ascoltare. Abbiamo capito bene. Ti candiderai alla presidenza del Consiglio con una tua lista? È giusto, con la tua lista? È così? No. Questo vedi tu, come al solito, dici delle scemenze ciclopiche. Io ho detto una cosa molto diversa, ma molto precisa. Che dopo i professori si possono candidare anche gli alunni, che probabilmente faranno meglio. Tra gli alunni che si potranno candidare ci saranno tante persone normalissime. Vabbè, ho capito. Tu vuoi candidare, sì o no? Se io mi voglio candidare, io ho già detto che mi candido. A Presidente del Consiglio? Presidente del Consiglio. Sicuramente ci sono stati Presidenti del Consiglio che non hanno nulla di meglio di tanti altri cittadini, per cui cioè io so, sarei meglio per esempio, tu faresti meglio di Prodi? Beh, Prodi è uno di quelli che effettivamente dell'esperienza seria ce l'aveva quindi non vabbè, però diciamola tutta, però, Diego Volpe Pasini sarà capo di una lista in cui si candida Presidente del Consiglio, lo possiamo adesso dire? Adesso tu stai dicendo una cosa un po' esagerata. Però diciamo vado questo, a vivere in Birmania. Diciamo questo, ecco, questo potrebbe essere un buon motivo. Io vado, però vedi, tutti dicono non andiamo a votare, chi andiamo a votare, eccetera. Secondo me ci sono una valanga di cittadini normalisti. Vanno a votare perché ci sei tu. Ma questo è pazzo! Ma fermatelo! Ma questo è impazzito. Cioè, Volpe Pasini dice: se io mi candido, valanghe di cittadini vanno a votare. No, questo lo dici tu, valanghe. Ma al comizio non c'era nessuno, però. Ma c'erano tre persone a quel comizio. C'erano più i cameraman, i passanti cinesi che stavano andando a vedere il Duomo. Certo. Ah, Duomo? Duomo a Milano? No, comizio Volpe Pasini. Boom, scappavano via. C'erano 100 persone per una cosa organizzata in tre giorni. Ma quali 100 persone? C'erano 100 persone che mangiavano il gelato in piazza Duomo. Erano lì, scusi, where is the ice cream? No, who is that man? Io l'ho visto la scena. Guarda, io ho visto la scena. Aspetta, Volpe, una cosa. Neanche tu ti ricordi di andarci. Aspetta, tu sei talmente babbeo che neanche ti ricordi di andare alle tue manifestazioni. Volpe, quindi non parlare di altri. Io ho visto le persone che c'erano lì. Ho visto turisti americani che dicevano, excuse me, where is ice cream? Ma comunque, guarda, who is that man? Ma guarda, e lui, presidente diceva, ma noi non sappiamo chi sia, Volpe Pasini. Volpe Pasini? E scappava via, gente che scappava via da Milano. Povere zanzare, non sono mai gradite, anche se sono in abito da sera, e sul muro bianco, ecco all'improvviso, l'ombra di una mano, una grande mano, ma la zanzara più furba e più spedita. Eccoci, Domenico. Domenico, che stavo dicendo? Scusi. Sì, buonasera. No, dicevo che potrei pensare che Napoli nel 1850 era la culla della cultura europea dopo Parigi. Sì, ed oggi ci troviamo un presidente della provincia di Napoli che ci fa fare queste magre figure. Sinceramente è mortificante per un cittadino napoletano. Lei si sta riferendo sempre a Gigino a Purpetta? Com'è che si dice in dialetto esattamente Gigino a Purpetta? Gigino a Purpetta. Così, Gigino a Purpetta. Sì. Lo dico bene? Sì, dice benissimo. Vabbè, lei è mortificato da questa cosa, ma mica l'ho eletto io però, signor Gigino la Purpetta, scusi. Come, chiedo scusa? Non è che l'ho eletto io, a parte che non lo so come governa, magari male, non ho idea. Poi non è che si può giudicare il governo di una persona da come parla, no, cioè, però saremmo al razzismo. È vero che uno al World Urban Forum, insomma, a una cosa organizzata dalle Nazioni Unite, non c'è bisogno di parlare se uno non è in grado, non c'è bisogno di parlare, non ce n'è bisogno, non se ne sente il bisogno. Ma non solo in inglese, ma magari anche in italiano. Ma in italiano quello c'è l'accento forte napoletano, mica uno si può tagliare la lingua adesso su questo, francamente. E allora le invito a trovare altre fonti su YouTube. Ma lo so, l'abbiamo messo ci tutto sono stasera. Sono partenopei che parlano uno straordinario inglese. Ma sì, ma non è quello il punto. Presidente della Repubblica. Certo, non è, diciamo, un bel vedere, un bel sentire. Insomma, no, su questo non no, c'è dubbio. No. Non è un bel sentire, anche dal punto di vista fisionomico. Però quelle sono cose, francamente, non si può essere. No, purtroppo non la sento più. Non si può essere lombrosiani in queste cose. Filippo da Verona, buonasera. Buonasera, dica. Io volevo ottimo Parenzo e ottimo Cruciani, ma vi ringrazio quando mettete sgarbi, perché è un momento di ilarità, perché è vero che è un gran comico ed è meglio di tutti quelli che gli fanno l'imitazione, perché lui è ancora di più e quindi secondo me fa sorridere, è vero che trascende con le parolacce, lì non è il massimo. Specialmente quando insulta. Vabbè, però no, lei ci ha chiamato. Quando fa il teatro. Sì. Quando fa il teatro è meraviglioso. Va bene, grazie. Mauro dall'Aquila, buonasera. Buonasera. Io volevo riferirmi al dottor Rizzo di prima, che adesso, se non sbaglio, non è più in linea. Comunque, sono stupito, stupefatto, eccetera, eccetera, che insomma ancora al giorno d'oggi si continui a confondere in maniera veramente atroce quello che era lo stalinismo da anche il più basilare concetto di comunismo. Viene fatto da anni e anni e anni, me la prendo anche un po' con voi due, perché insomma si presume che insomma chi abbia un minimo di cultura possa, insomma, dovrebbe quantomeno contestare quando sente delle amenità del genere. Comunque, vabbè, semplicemente puntualizzare questo. La ringrazio, grazie. Il concetto di stalinismo è del tutto estraneo al concetto di comunismo. Sì, vabbè, Mauro, adesso ci mettiamo a fare la differenza tra stalinismo e comunismo. Per carità. Francesco da Caserta, buonasera. Perché sento così? Buonasera. Microfono. Sì, Francesco, dica. Sì, no, niente, io volevo dire che ieri sera ho assistito in diretta alla telefonata di Sgarbi, perché io ero vicino a lui. Sì. In quanto lui era a Piedimonte Matisse per un convegno, una presentazione di un libro. Sì. E a parte che sono solidale con voi, perché non è giusto, insomma, trascendere in quelle parole. Però, diciamo, a me è sembrato più che lui, quando si rivolge alla stampa, assume un altro modo di fare, perché immediatamente dopo, proprio un secondo dopo, lui era a casa mia per vedere una fontana antichissima, era calmo, sorridente, rilassato, cioè non ho avuto l'impressione che, poi ho riascoltato anche la telefonata sul sito di Radio 24. Vabbè. Volevo solo dire che a me sembra che lui, insomma, veste una maschera quando si... Vabbè, ma no, non c'è bisogno che me lo spieghi, è talmente chiaro, Francesco. È assurdo, diciamo così, perché molta gente ce l'ha con lo Sgarbi, visto quando non trascende, io insomma mi arrabbio assolutamente. Va bene, Francesco, però, grazie. 800 24 00 24. Con noi un esponente del Partito Democratico, caro Parenzo, sei contento? No, sei contento. Io sei contento, non è che ho preferenze. Sì. Tu hai una simpatia per il Partito Democratico, dillo chiaramente. A parte che non sarebbe un crimine, no, ma però io faccio il mio mestiere. Se uno del Partito Democratico dice una sciocchezza, dico che è una sciocchezza. Però dillo, hai una simpatia per il Partito Democratico, lo puoi dire tranquillamente, non c'è bisogno di nascondersi. Ma certamente non ti nascondere. Come ho detto più volte che ho votato Radicale, ho votato il Partito Democratico, certo. Ma dillo apertamente. Mi pare che hai sia una simpatia per il PD. Se uno però dice una stronzata del PD, ma certo, io dico che lei per chi ha simpatia, ad esempio? Per nessuno. Per nessuno. Ecco, per nessuno. Io, ecco, lei è cinico, non ha simpatia per nessuno. No, ma io... che c'è il cinismo? No, simpatia per nessuno. Lei ha simpatia per Volpe Pasini, ad esempio. La gente deve sapere che lei ha simpatia per quel cialtrone che abbiamo sentito prima, che si candida alla presidenza del Consiglio. Si rende conto, signor Cruciani? Pina Picerno è con noi, buonasera. Buonasera a voi. Una bella. Senta, deputata, tra l'altro, signor Picerno. Perché ne sai, la conosci? Conosco benissimo. La conosci, la reputi bella? È una bella deputata. Ma è importante essere belli in politica, me lo dica chiaramente, signora Picerno. Non, è una bella deputata. Qui non si è mai ipocriti. Ma no, assolutamente non è importante. Ma come non è? Beh, no, come? Beh, adesso, no, come, insomma, no, come no, è importante. Vabbè, è importante in altre circostanze, signor Cruciani, come lei sa bene. In che senso, scusi? Quando ci si dedica ad altro nella vita, è importante quell'aspetto lì, allora va anche bene. Quando l'attenzione invece si sposta dall'aspetto fisico a quello che si dice e che si pensa, non è più importante. No, però, onorevole Picerno, diciamola tutta, l'aspetto fisico è importante. È importante, è importante per lei, diciamo. Ma no, così, ma anche per lei. No. Per su questo, per Crucia, su questo non ci dubbio. Su questo, ma proprio. Perché parli così? Scusa, lei reputa un bell'uomo il signor Cruciani? Ma che non è questo il discorso? Fare, ma perché? Adesso, guarda, lascia stare. Sicuramente è molto bravo come giornalista e la Zanzara la seguo sempre molto volentieri. Ma è bello come uomo, ma perché te ne frega te? Dai, zitto. Ma perché devi fare queste domande? Anche alla radio non conta l'aspetto fisico, ecco, bravo, non bravo, si vede senso. Nemmeno la faccia. Mi scusi, adesso lei, siccome lo conosce, signor Cruciani, non mi conosce, non ci conosciamo. No, giuro di no. Adesso non c'è bisogno di giurare, non è che non è della 'Ndrangheta, non è il capo della camorra il signor Cruciani, anche sono il diavolo, ha i suoi difetti, per carità, però. Non è che sono il diavolo, no, giuro che non lo conosco. E che mica no, criminale. Non godo di buona fama, no, dico, non è il libanese, ma non è il libanese della banda della Magliana, però. Scusi, che significa non godo di buona fama? No, significa che lei gioco. Che lei è molto attenzionato dal genere femminile, ma non è vero. Vabbè, ma lo dici tu questo qua, lo dicono le cronache, va bene? Sì, lo dicono le cronache. Ma quali cronache? Le di che cronache, cosa? Quali? Di che stai parlando? Non voglio, ho una carta. Vabbè, ma lei è fidanzata, signora Picerno? Sì, assolutamente. Da quanto? Da un po'. Cioè, è una cosa nuova. Cruciani è dispiaciuto. No, ma io non sono dispiaciuto per niente. Sono contento se c'è una storia bella d'amore. Ma è del PDL? No. È del PD? Nemmeno. Cioè se ne fotte della politica. Non fa politica. sì, esatto, esatto. Ma è più giovane o più vecchio? Un po' più giovane di me. Oh, brava, vedi? Questa è la notizia. Cioè, l'onorevole Picerno, che è un giovane deputata... Quanti anni ha lei? La mia età, su, no, ma la mia età... 30... Beh, 33, anni. Credo. 30 anni. Ma 30... che 33? Oh. 30. Ah, 30, è vero. Per piacere, 30 no, è un coetaneo alla mia età. Beh, 30 anni, ce n'avrà 20. Ah, si è beccato un 25enne. No, assolutamente non 25enne, no. Quanti 28, anni ha? 28. Ma no, ma su, ora... Un toy boy. No, diciamo, un toy boy. No, assolutamente, guardi, no, non stiamo parlando. Ma cosa di... fa il fidanzato dell'onorevole Pina? Ma che cosa Picerno? Te ne frega? Ma che gliene frega, penso. Però al paese potrebbe interessare. Che fa l'avvocato? Come no, tutto tutti questi, avvocati, architetti. Questi, citando una nota pubblicità, sono fatti miei. Beh, guardi che questa però è una casa di vetro, una casa molto trasparente dove si dice veramente tutto, dove si dice tutto. Per esempio, lei è a favore dei matrimoni gay, però non sì. mi dica la non mi faccia la solita risposta. Io sono a favore dei diritti, ma non del matrimonio. Ho già risposto a questa domanda già diverse volte. Sì. Ma con noi è diverso. Sì, dunque il matrimonio, lei vorrebbe una cosa che si chiama matrimonio. Certo. Ma sì, nel sì, senso bravo. Vero, mi pare, insomma... Bravo, molto bravo, mi piace molto questa cosa, mi piace molto. Matrimonio, il matrimonio gay, ma noi facciamo una grande campagna fuori dei matrimoni gay, sì. eccetera. Scusi... Vabbè, ci mancherebbe, diciamo, sul tema diretti civili, il nostro paese, come è noto... Conosce un ritardo secolare, mi verrebbe da dire. Quindi... Secolare. Però non mi dica cose banali, che qui siamo avversi alla banalità. Dunque, lei è d'accordo al matrimonio gay? Dunque, diciamo. Porta rispetto perché stai parlando con un ministro ombra, eh? Ah, era ministro ombra. È stato ministro. È stato ministro. Non avere questo... Essere rimasta solo l'ombra di quel ministero. No, vi prego, su. Del ministero, dico, non di lei. Non era ministro shadow. Ministro Shadow, bello. È stata proposta da Veltroni con sì. le liste bloccate, per tutti con le liste bloccate in realtà. È stata scelta da Veltroni. È quella la legge elettorale. Questa è la legge elettorale. Scusi un attimo, signor Picerno, ma secondo lei avrebbe preso i voti? Se sono stata eletta grazie alle liste bloccate. Quei voti. Lei sì, avrebbe non avrebbe avuto voti all'epoca, a 26 anni, dov'è? Guardi, io avevo 26 anni. Facevo politica e faccio politica da quando sono molto piccolina. Cioè, i voti li avrebbe presi. I voti li avrebbe presi lo stesso. No, guardi, non lo so, nel senso che poi, insomma... Cioè, gente come voti, me... I voti li ho presi, nel senso che la gente ha, come dire, andato a votare il Partito Democratico nel collegio in cui ero candidata. Cioè, lei però, difende, insomma... difende anche questa legge un po', dunque la gente può scegliere lo stesso, può scegliere lo stesso. No, non difendo questa legge, non mi faccio dire cose che non penso, assolutamente non difendo questa legge, dico che è una legge che abbiamo subito, non l'abbiamo nemmeno votata in Parlamento, e però era insomma il sistema con cui si andava a votare, certo. Quindi che dovevamo fare? Urban Forum. Una delle ultime imprese di Gigina Purpetta, presidente della provincia di Napoli, nonché deputato. Lei conosce il signor Luigi Cesaro, signora Picerno? No, non ho il piacere, diciamo così. Cioè, so che esiste, diciamo, ne ho apprezzato, come dire, le performance dialettiche, però insomma. Però lo pronunci lei, se ha coraggio, il World Urban Forum. Lo dica bene in inglese, dato che fa la spiritosa. Noi lo facciamo perché siamo qui a condurre. No, guardi, il problema non è, insomma, se posso essere seria per qualche minuto, il problema non è soltanto come dire, la pronuncia. Beh, quello è chiaro, e la, come dire, la scarsa familiarità con la lingua italiana dell'onorevole Cesaro. Il problema è che l'onorevole Cesaro ha un curriculum, se vogliamo definirlo così, insomma, molto particolare. È stato arrestato, poi è stato assolto, ho capito. È stato latitante per un periodo, per un problema relativo a truffe, eccetera. Vabbè, però non ha la fedina penale sporca. È coinvolto in varie indagini, è noto alle forze dell'ordine per diciamo il fatto che noto alle forze dell'ordine. Ci sono delle informative dei carabinieri, non ce lo descrive come un bandito. È metà degli anni '80, risalgo. No, ce ne sono alcune recenti che vengono riportate in un bel libro che vi invito a leggere, che è La peste di Nello Trocchia. Cioè, lei dice che è un camorrista, praticamente. No, non sto dicendo, dico amico quello che dicono i carabinieri dicono che si accompagna con personaggi come appunto riporta il libro che sì. citavo prima, a personaggi di spicco del mondo criminale. Cioè amico di criminali, che... È amico di criminali, ci sono. Pare proprio di sì, e questo è una cosa gravissima. Sembra, beh, no, pare, sembra, o è o non più, è. Mi sembra molto più grave questo aspetto. Ma questo non c'è dubbio, cioè, c'è, fosse vero. Diciamo, alla ilarità che può suscitare, diciamo, la scarsa familiarità con la lingua italiana, di cui peraltro abbiamo avuto molto spesso prova, perché diciamo amico di criminali. Amico di criminale, vabbè, è una cosa gravissima quella che dice l'onorevole Picerno. Amico di criminale, cita un rapporto dei carabinieri, però insomma, sì, per ora è stato sempre assolto, poi dopo io non so. Però, amico di... Per carità, io mi fermo sempre, la magistratura fa il suo corso, e io mi fermo sempre sull'aspetto però politico. Guardate, lo dico sempre, la magistratura e l'aspetto, diciamo così, giudiziario, a me non... come parlamentare e come personaggio politico non mi riguarda, cioè la domanda che pongo io è: opportuno che un soggetto del genere con questo faccia tipo ancora di curriculum il presidente faccia, della... rappresenta le istituzioni, rappresenti, chiedo scusa, però le il curriculum, ma lei sta stiamo parlando, parliamo di cose attuali, secondo lei risulta che sia amico di camorristi? No, guardi, frequentatore di camorristi. Allora, io sto citando, come le ho detto, ripeto, un rapporto riportato libro, all'interno di un libro. Libro molto interessante sul problema Monnetto in campagna, che è La peste, appunto, dello Trocchi, in cui viene riportata questa informativa dei carabinieri. Ovviamente io, insomma, leggo, mi informo, studio, certo. Studiando questo libro ho preso, diciamo così, questa cosa che mi ha fatto saltare dalla sedia, ecco, come ho capito vicenda... perfettamente. Senta, ma però non me l'ha pronunciato lei World Urban Forum, Ma lo sa. Perché lei, io capisco che lei deve sviare la conversazione, più simpatici. Guardi, io devo svelare una cosa, onorevole Picerno. Ma che vuoi svelare? Lei l'altro lunedì era ospite del Palo del Debbio a Quinta Colonna. Sì. Ottimo programma. Dove ha parlato anche di tasse, voleva tassare tutti, Zamparini si è arrabbiato moltissimo. Io depresso per i fatti miei, seduto sul divano. A un certo punto mi chiama e sono cucciato, dice: oh, accendi, che succede? Accendi del Debbio che c'è la Picerno. No, ma non ho detto questo, ma che stai dicendo? Scusa, questa è una cosa falsa, ma non è vero, le assicuro, non è vero. Sì, mi fa sangue, dico, guardi, le assicuro, io non dico mai sciocchezze, le assicuro, di che non è vero. Diciamo che non lo voglio sapere, ma non di che non è vero che mi hai telefonato per dirmi che ti piaceva la Picerno. Ma non abbi è... coraggio, io tiro fuori i tabulati, chiamo Genchi. Di la verità, non è vero, mi hai telefonato per dire, giura che non ti, assolutamente sei falso, ti ho telefonato per dire che c'era una trasmissione, che c'era una battaglia in corso tra Zamparini e la Picerno, e poi ti ho fatto una battuta. Vabbè, ho capito, ma non è che ti ho telefonato apposta. Ha capito, vede che non dico mai balle. Ho capito, adesso non è che si può rivelare tutto. Ho fatto una battuta stupida. Dici all'onorevole Picerno che deve essere una casa di vetro, partiamo una battuta, da te. Ho detto, a partire bene, da te. Ciao Picerno, non è che le conversazioni non private. Si offenderà. No, io ascolto divertita, tra un po' prendi popcorn. Le conversazioni private non è che si possono rivelare. Beh, il suo fidanzato non sarà geloso. Quante ne dirà lei al telefono? Quante ne dirà al telefono di Cruciani, poi? Come si fa a essere geloso di Cruciani? Quante ne dirà al telefono con le sue amiche? Tante, no? Ne dirà tantissime. Diciamo, sì, se la intercettassero ne verrebbero fuori di tutti i colori, cioè, diciamo. Sono una giovane donna curiosa e mi appunto piace commentare. Esatto, bravo, è quello io dico, è una giovane donna diciamo curiosa. Che con le mie amiche ho anche commentato, diciamo, la notizia del suo fidanzamento con... Ma non c'è nessun fidanzamento. Ma sai che è proprio brava la Picerno. Bisogna invitarla più spesso. Ma prima no, ma non cose no, perché insomma, peraltro è successo in casa Partito Democratico, quindi sa, era una cosa. Ma non è vero, è tutto falso, diciamo, non c'è nulla di vero. Sì, siamo impazziti completamente. Comunque, c'è stata questa telefonata in cui poi a un certo punto ho detto una cosa, cioè ho detto una cosa stupida che si poteva dire, beh, non è che sta particolarmente bene. Basta. Sì, ma ti do sereni, Cruciani, non mi interessa. Appunto, no, ma io sono serenissimo da questo punto di vista. Guardi, sono serenissimo. È la prima buca che prende. Ma non è vero, ma è costruito tutto tu. Questo, senta, questo volevo chiederle questo. Volevo capire. No, questo. Una cosa sulla Bindi, io volevo chiedere. Sì, infatti. Allora, continua a dire che lei, insomma, il matrimonio non bisogna farlo, bisogna scegliere un altro istituto. Poi recentemente ha anche detto che ha rinunciato al sesso, no? Cioè è stata una grande rinuncia, ma una persona che rinuncia al sesso, all'amore anche, perché quello ha detto, no? Si può occupare di queste cose, secondo lei? Cioè dei matrimoni omosessuali, insomma di questi istituti? Cioè, è fuori luogo o sbaglio? Cosa? Chiedo scusa. Cioè, è un po', come dire, no, non è molto titolata poi. No, vabbè, non c'entra. Come dire, è come dire che uno che decide di non adottare non si può occupare, diciamo, dell'istituto delle adozioni. No, è un po' che diverso. Che ragionamento è? È un po' diverso. No, lo contesto. Altra cosa è dire che, ovviamente, insomma, io non entro nel merito delle scelte. Però personali. È in minoranza la Bindi nel partito. Cioè, nel partito, comunque, tra gli elettori del Partito Democratico, secondo lei è in minoranza? Io credo di sì, nel senso che cioè, l'idea, per carità, insomma, sua personale, però sì. Mi sembra che il mondo che ruota intorno al Partito Democratico abbia le idee molto chiare. Cioè, è un po' il passato, diciamo, ce rappresenta una concezione un po' arcaica. Un po' del passato, o no? Guardi, io penso che questo discorso sia, insomma, è nei fatti ampiamente, come devo dire, superato, e cioè mi sembra anche ridicolo, come dire, metterci ancora a discutere sull'opportunità di, cioè, poi ridicolo perché mi metto anche nei panni ancora è aperto evidentemente delle persone che, come dire, vivono questa condizione, che si vedono negati i diritti che sono, però voglio dire, la Bindi assolutamente naturali e legittimi, certo, come avviene del resto in tutto il mondo, ecco, ma la Bindi rappresenta un po' il passato da questo punto di vista, no? Si può dire questo, un retaggio del passato, no? Ma io non contesto le idee personali che ci può però avere, si dà un giudizio piuttosto che Fioroni, voglio dire, no? Dico semplicemente che poi si fanno i conti con le cose che esistono, cioè la politica non è che può imporre o brandire un'idea, no? La politica ha il compito molto difficile di risolvere le questioni che esistono, non la mettiamo, cioè, di fare i conti con le questioni che esistono. Non la mettiamo troppo in maniera troppo difficile. Uno può dire la Bindi è il presidente del partito, però sulla questione dei matrimoni omosessuali è il passato, si può dire, è una cosa superata. Dire, cioè, si può dire senza offendere nessuno. Meglio, io posso dire che è un'idea diversa, radicalmente diversa. Insomma, poi lascio ai lettori decidere e al mondo che ruota al Partito Democratico. Ma lo sai, Parenzo, che la signora Picerno ha scritto una tesi sul linguaggio di De Mita? Sì, questo l'avevo letto. Linguaggio di De Mita, questa è una storia vecchia. De Mita, eccetera. Si può dire parlato e riparlato. Sì, ma infatti non ne voglio parlare. Però, secondo lei, De Mita è si può definire un grande statista? Signor De Mita, un grande della storia italiana, lo definirebbe così? Sicuramente negli anni '80. No, in generale, diciamo, nel dopoguerra in poi, un grande della storia italiana. Lei ci ha fatto pure una tesi. Ci ride sopra anche lei, perché ha risposto ridendo. No, diciamo che sulle ultime scelte, diciamo, da quando ha lasciato il Partito Democratico in poi, così è troppo facile. L'idea, cioè, di rinunciare. Io penso che a un certo punto, no, tutti i leader, tutti quelli che hanno avuto un ruolo importante, questo poi è quello che, come dire, gli dà anche poi alla fine, no, la statura. Cioè, a un certo punto uno deve anche fare i conti con deve lasciare non con la realtà, con la possibilità di dare spazio agli altri, a nuove generazioni. Ecco, per esempio, nel Partito Democratico Democratico chi è che lei vorrebbe rottamare, per usare un termine che si usa molto in queste, anche se magari Beltroni basta, no, troppe legislature, la candidata. Ma guardi, come dice diventa antipatico fare una questione di nomi, ma come no, ma con De Mita lo fa statuto, con Beltroni no, ma perché poi diventa, come dire, sfuggiamo dal, ma non dal, lo si dal, applica dal mai nostro, onorevole Picerno, lo statuto dice che uno dopo tot mandati non può più candidarsi, tranne deroghe. Mi fa parlare, se no ci sovrapponiamo. No, ci sono le deroghe, però è previsto. Allora ragioniamo anche delle deroghe, perché io capisco che questo è l'argomento più appassionante della politica italiana. Penso invece che bisognerebbe anche ragionare l'altro. Lo dico anche con riferimento a Matteo Renzi, no? Persona che io stimo molto, è un ragazzo brillante, intelligente, uno dei più in gamba che abbiamo. E però lei chi voterebbe tra Renzi e Bersani? Chi voterà? Ci sta arrivando, Luciani, lei non mi... Io sono fatto così. Un attimo solo, poi abbiamo tempo. Abbiamo il traffico. Matteo, in questo momento è un po' un vassoio affascinantissimo, ma vuoto. Cioè, non ci ha ancora detto che cosa vuole fare. Cioè, uno che si propone a premier, uno che si candida a premier, si candida ad essere leader centrosinistra, mi aspetto che ci spieghi un po' di cose, che cosa vuole fare, quali sono le alleanze. Beh, si capisce che la pensa molto, molto, molto diversamente da Fassina e Orfini, ad esempio. Questo è la cosa che si capisce di più. Sì, però dire la penso diversamente non significa dire penso questo. Ecco, io mi aspetto che Renzi, che ripeto, io considero un ragazzo brillantissimo, però... è una risorsa per il partito e mi, come dire, sorrido e anzi mi dà anche molto fastidio, quindi sorrido amaramente quando noi leader del nostro partito commentano spucciosi, sì. No, è troppo giovane. Ma la Bindi, per esempio, la Bindi si deve candidare o no? La Bindi io non lo so quante legislature c'ha. Beh, tante, c'ha... tante, 4, 5. Vabbè, allora no, nel senso che chi ha più di 3 legislature, secondo me, come senza deroghe, senza deroghe. Non senza deroghe, cioè, no, ci sono alcune eccezioni, cioè per esempio il segretario del partito è secondo me un'eccezione che va fatta. Vabbè, solo una, solo una. I capogruppi alla Camera e al Senato. Vabbè, cominciamo così. Quelli... Ma scusi, no, dice, ma perché solo in Italia i segretari di partito devono essere forze in Parlamento? Cioè, si può far politica anche fuori dal Parlamento? Ma certo che si può, ma certo che si deve, non solo si può, si deve. Allora, domande rapidissime, risposte rapidissime, siamo proprio al rush finale qui alla Zanzara, 800 24 00 24, diversi ascoltatori in attesa, dobbiamo anche combattere un po'. Allora, onorevole Picerno, Renzi o Bersani? Per adesso Bersani. Per adesso, e che deve fare Renzi per farsi votare da lei? Intanto deve spiegare che cosa vuole fare, come dicevo prima. Cioè, io mi aspetto che spieghi qual è la sua idea di paese, cosa offre al paese. Benissimo, dicevo, no, lei ancora non l'ha capito. L'ha detto alla Leopolda mille volte. L'ha detto a Parenzo. Io capisco che lei gli piace tanto Renzi. No, anche a me piace molto Renzi. Ma piace anche alle donne del PDL, lo sa, l'ha detto oggi la Zanicchia, un sacco di donne. E qua lancio un appello, approfitto della vostra, diciamo, voce per lanciare salviamo Renzi. Da chi? Da sta roba, perché veramente... Ma è bellissima questa cosa, un sacco di donne del PDL sono innamorate di Renzi, ma secondo lei Renzi ci starebbe bene come candidato del centrodestra? Ma no, su, non diciamo... Perché no? Perché diciamo no? Una bella lista... Assurdità. Ma perché Renzi è uno che ha scelto di stare nell'altro schieramento, che è quello del centrosinistra, cioè non diciamo cose che sono, cioè mi fa un po' sorridere, infatti l'altro giorno commentavo ironicamente anche su Twitter, sì, no, dopo la minaccia del bacio della Sant'Anchè qui da voi ho detto, ma lei chi darebbe un bacio nel centrodestra in questo paese? Basta minacce, perché insomma davvero è così. Senta, chi darebbe un bacio nel centrodestra, lei, signora Picerno? A nessuno, guarda, a nessuno, solo al mio fidanzato. Vabbè, ma uno del centrodestra, su, un bacetto, ma un bacetto sulla guancia. Ha detto che non se ne parla proprio. Cioè, vabbè, allora, poi magari c'è il fidanzato che ascolta, ci sono anche cose imbarazzanti. Senza, amico ha detto. No, ma sì. No. È una persona seria. Sono proprio fatta così, diciamo. Neanche. Senta, lei, visto che è molto giovane, che è del... Ha 30 anni. Appunto, quindi 6 anni meno di... Cioè, ma lei si è mai fatta una canna, signora Picerno, o no, in vita sua? Quando ero ragazzina è capitato. Oh, finalmente. Una bella confessione, di quelle a cuore aperto, proprio, È capitato. Ma è stato sdoganato anche da Fini, non mi pare niente di trascendentale. Beh, Fini ha detto che ha dato delle tiratine. Ma così. Lei le ha anche rollate, come si dice in gergo? No, non le rolla. Solo sigarette, ovvero perché sto cercando di smettere di fumare, ma insomma. Ma è l'ultima canna quando sono fumata? Ma com'era fare le canne? No, com'era? Ma parliamo di, insomma... Com'era farsi le canne? No, ma non mi è mai particolarmente entusiasmato, sa, insomma. E perché lo faceva? No, ci ho provato, sai, quando si è giovani magari c'è il gusto di provare, quindi ho provato pure io, però non mi ha mai entusiasmato particolarmente, tant'è che non fumo, insomma non sono assolutamente una che fuma. Però la legalizzerebbe? Sai, sì, purtroppo vorrei togliermi il vizio. La legalizzerebbe la droga leggera? Guardi, io penso che su questo vada avviato un discorso molto molto serio. Quando nel si senso discorsi, che quando si gran discorsi... parte delle droghe leggere, come lei sa, non ritorniamo sul discorso che facevamo prima, è gestito, cioè il traffico di queste sostanze dalla camorra e dalla criminalità organizzata. E dunque, se uno legalizzasse? Cosa? Se uno legalizzasse? Appunto, sarebbero gestite direttamente attraverso un utilizzo ovviamente anche controllato dallo Stato, quindi si andrebbero a sottrarre delle risorse enormi alla criminalità organizzata. E dunque a favore? Penso che... Chiedo scusa, non e dunque, ho capito? E dunque a favore? Io penso che è arrivato il momento di cominciare a fare un ragionamento molto serio. Per quanto mi riguarda, io sono pronta a farlo. Apriamo anche le case chiuse, riapriamo anche le case chiuse. Facciamo come De Magistris, che vuole fare un quartiere a luci rosse. Un'idea bellissima, secondo me, bellissima. Io penso che De Magistris si debba occupare innanzitutto di altro, perché Napoli è Scampia, sono le faide di Camorra, e il degrado... Cioè, è sbagliato quello che ha detto, è sbagliato. Non è una priorità. Il magistrato ha detto un'altra cosa che è stata assolutamente, come spesso accade, molto, che ha detto? È stata interpretata male. Lui ha detto: abbiamo un progetto di recupero per le ragazze che fanno, diciamo, le prostitute, che mi sembra anche una cosa sadda. E è uscito il discorso all'improvviso sulle case chiuse. Vabbè, e un quartiere. Lui avesse parlato di questo. Comunque, i sondaggi danno in vantaggio Renzi. Gli ultimi sondaggi danno in vantaggio Renzi. Guardi che più le primarie saranno aperte, e più Renzi avrà possibilità. Io faccio un tifo sfrenato, forse vado a votare pure io, lo sai? No. Ti do questo annuncio. Sì. Povero, per votare alle primarie credo bisogna essere iscritti. No, chi l'ha detto? Non lo so, no, ma credo bisogna essere iscritti al Partito Democratico. Io ho votato pure una volta al Partito Democratico, mi devi dire perché non posso. Hai votato anche PD tu? Una volta, sì. Una volta qui a Milano, la provincia di Milano, perché non posso andare a votare. Io andrò a votare alle primarie. Sì. Te lo annuncio adesso, sì. Andrò a votare alle primarie Matteo Renzi, signor Renzi, vado a votare alle primarie. Senti lo sconcerto nella voce della Picciello. Sì. Dopo Facchinetti anche Cruciani vota. Brava. Dopo Facchinetti, ma tutta gente normale, gente che magari non ha mai votato per voi, ho votato poche volte, dovreste essere contenti. Ma io sono molto contenta, io sono una di quelle che ritiene Matteo una risorsa preziosissima. Bene. Per il partito. Però vota Bersani lei. Voto Bersani perché Renzi non ci fa capire, ripeto, posto che un ragazzo bravissimo, posto che non ci fa capire quello che vuole, ma perché invece Bersani fa capire che vuole fare, perché invece Bersani si capisce, non si capisce niente manco là, tutto chiaro, tutto confuso. Non è vero, non dico così, Cruciani, uno che si candida, cioè io penso ancora che la politica debba avere un minimo di serietà nel momento in cui uno si candida a fare il leader del centrosinistra, a fare il premier, cioè a governare questo paese, specie in questo momento deve dire molto cosa vuole. Ci spiegasse quello che però lei la dica. La devo salutare che è troppo tardi. Grazie, sì. Arrivederci, buona grazie cena. A voi, buonasera, grazie, grazie. Salve, dove salve. Andiamo? Franco da Trieste, buonasera. Franco? Pronto. Dica. Mazza, è che la messa infinita questa. Buonasera. Buonasera. Un saluto speciale a Davide Parento. Sì, vada, però non si prolunghi troppo. Vicino qui davanti, being there by Jerzy Kosinski. W. Ma che? Puntini. Eccoci qui a LT. Ma che? In bocca a tutti i lupi. Vabbè, no. È una storia. Sì, è un inglese che ho visto a Latina l'altro giorno da Pennacchi e che ti saluta. Va bene, allora Franco. Allora, alla signorina di prima che non la conosco, mi dispiace. Picciano. Davide Parenzo, non il dottore Cruciani, Davide Parenzo, perché è molto fico, molto più bello, giovane, prestante, intelligente e come dire, insomma, gli piace Parenzo a lei. Speedy going. Va bene. Marco, provincia di Pistoia. Grazie Franco. Marco, provincia di Pistoia. Ma piace questo signore, uomo. Dica. Parenzo, sentite, allora, riguardo a Renzi, sono toscano, sono un elettore di centrodestra e quindi anch'io sono a favore di Renzi, anche perché di sinistra Renzi non ha niente. Tra l'altro non capisco come mai sia all'interno di quel partito, veramente. E poi vabbè, saluto Davide, che tra l'altro abbiamo un comune, Nicola Porro. Io sono una Ho visto ieri. Ciao, a domani 18:30. Ciao, Urban Forum. Oh, la rifacciamo tutta. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, alle 8, lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.